un nuovo partito che si ispira a Berlusconi, alla sua personalità e che sarà fatta dalla sua Berlusconi Generation, che è quella che è cresciuta secondo alcune lezioni che sono lezioni innanzitutto di vita e non di partito. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Dice se potessi fare l'avvocato, se tu avessi tempo. Ma certo che la vita sua è veramente un'odissea. Ma quella storia del cargo liberiano, piuttosto la Liberia dov'è, al nord o al sud? Non è vero niente. Sto raccontando un sacco di fregnacce. Ma davvero? Sì. Forse qualcosa di vero c'è. Ieri a quello dell'Eno io gli ho detto che ero proscio. Ma perché? Così, perché mi annoio. E allora invento, sogno, divago. Ha molti rimpianti, io avrei fatto il professore. Insomma, ci sposammo. Per un po' fumo anche felice. Solo che lei aveva il vizio di bere. Beveva, beveva, beveva. Lei è quell'altro amico suo lì, quello Richard Burton che mi è sempre stato qua. Richard Burton? Richard Burton. Faceva una gara a chi beveva di più. Poi una sera Burton mi vomita sulla moquette del salotto e quella fu la goccia che fece traboccare il vaso. Non ci ho visto più. L'ho preso e l'ho buttato fuori di casa. Ma te lo ricordi questo film, David? Sì, ma oggi sono molto incazzato, guarda. Ma te lo ricordi questo film o no? Siete delle Iene. Te lo ricordi questo film o no? Manuel Fantoni, Manuel Fantoni, Acqua e Sapone. Siete delle Iene. Che racconta un sacco di balla, perdone. Siete delle Iene. Ma senti un po' questa cosa, siccome lui in questo... No, non partecipo più al circo. Aspetta, siccome in questo film... Giannino, non siccome in più. Questo film... Dai, non partecipare, chi se ne frega. Siccome no, in questo... perché con Giannino... adesso anche lo zecchino d'oro di guarda, fammi dire soltanto una cosa, sì, mi fanno schifo, sì. Ma mi fanno schifo, una sì, rabbia addosso, sì, che sì. Oggi non hai neanche idea, dimmi perché mi sono letto tutti i giornali, dimmi. E mi fanno schifo quei giornali, sì, che hanno ospitato le sue opinioni. E me che c'entra? Che l'hanno fatto scrivere con autorevolezza. Ma che vuol dire? Che e vuol che dire? Allora sono responsabili. Ma responsabili di che? Perché, oh, ma che c'entra? D'accordo. Come ha scritto Francesco c'è Merlo, tempo, mi fai andare avanti un attimo, fammi avete andare usato togliete, anche con Al togliete l'audio, togliete neanche l'audio, togliete l'audio, toglietelo. Mi avresti fatto un regalino, noi avremmo Manuel Fantoni alias Giannino, sentitelo Radio 24, io accanto alla Thatcher e a Bush, stupendo, meraviglioso, senti. Io non dimenticherò mai un'occasione in cui ad Aspen, appena invaso in poche ore prima da parte degli iracheni il Kuwait, eravamo lì a una cosa Aspen col presidente Bush padre e con la Thatcher, sospensione dei lavori dopo poche ore, mentre Bush informava i presenti di quello che era avvenuto, nessuno poteva sapere niente, i satelliti solo avevano registrato l'invasione, pronunciò alcune parole di circostanza al presidente Bush. Beh, più tardi l'integrale. Dai, su. Beh, ormai siamo oltre Bush, la Thatcher, ad Aspen. Viene. Però bisognava. Senti quest'altra, l'ufficiale, io ufficiale. È stupendo, è meraviglioso, un personaggio ormai oltre la... Ormai non c'è più niente, nemmeno da criticare, capito? È una tale invenzione che è meraviglioso. No, ma aspetta. Siete delle Iene. Consentitemi di mandare un pensiero agli amici che ho nelle diverse unità delle forze speciali delle nostre forze armate. Ormai sono ufficiali di una certa età, ho poca gente che conosca oramai di quelli più giovani che sono impegnati in attività operative, però a loro un pensiero e ai loro familiari un pensiero moltiplicato per 10. Abbiamo un grande ospite qui alla Zanzara, 800 24 00 24. Tra qualche secondo è già in attesa. Fammi dire una cosa. No, cioè, non devi dire niente adesso. Hai due ore e mezza per dire qualcosa. Te, lo vuoi capire o no? Siete delle iene. Vabbè, siamo delle iene, sì. Allora? Sì, iene. Delle belve, sì, siamo delle belve. Allora non mi rompere le scatole, su. O partecipi a questa fiera, a questa fiera delle belve, oppure te ne vai a quel paese. Sono qui per dire che siete delle iene. E va bene, ma sei anche tu una iena. No, solo che con Giannino improvvisamente ti ammorbidisci. No. Bisogna essere belve qui, altrimenti te ne vai a quel paese. Vale su. Per tutti. E va bene, vale per tutti. Allora accanisciti su tutti e non rompere, su. I politici se ne andranno come gli americani da Saigon. Adesso dammi del casaleggio, avanti, dammi del casaleggio, su, dammi del casaleggio, sei, dai. Con capelli meno belli, avanti, sei, dai, sei radio via, casaleggio. Via, via, vai. Giusto per buttare tutto in vacca, lì, Grillo, evviva, vaffanculo, via. Adesso no, ti caccio, nucleare. Adesso ti caccio, Grillo. Devono arrendersi e uscire dal Parlamento con le mani in alto, non le faremo niente. Faremo una verifica fiscale, se ne andranno come gli americani in Vietnam con l'elicottero, sai, da Saigon quando scappavano. Senti che dice sugli avvocati, giurisprudenza, senti. Un terzo di tutti gli avvocati d'Europa sono in Italia, 240.000 avvocati, e ogni anno aumentano di 15.000. Bisogna andare alla facoltà di giurisprudenza e dire: ma che cazzo state facendo? Più avvocati c'è, più litigiosità c'è. È con noi il mito di tutto, del teatro soprattutto, Giorgio Albertazzi, buonasera. Salve. Come sta? Salve. Come sta? Come va? Voi come state? Beh, Giuseppe, come sta Giuseppe? Bene, bene, bene, sto bene, bene, sto bene. Come va lei al teatro? Dov'è adesso? Al Parioli? Al Parioli. Che fa? Pure si denuda? No, questa volta no. No? Questa volta è l'imperatore Adriano, è tutto vestito con una tunica bianca. La paura di sembrare il Papa. Perché è tutto bianco, io ho detto, ma non mi scambieranno mica per il Papa. Ma lei è un laico militante, laicissimo. Beh, questo, però... anticlericale al massimo, no? Massimo. Io sono un anarchico di centro. Scusi, Albertazzi, ma quanto è pericolosa ancora la Chiesa e il Vaticano, secondo lei? Molto, moltissimo, ma non soltanto questa Chiesa, Tutte le chiese. È molto pericolosa, molto. Molto, ma perché cosa? Lì sanno del pericolo. Le chiese e la burocrazia sono il male del pianeta. Ma le chiese perché cosa? Per esempio, ancora sono arretrati, questa storia del preservativo e delle chiese. Sì, perché impediscono il vero progresso, il vero progredire, il vero andare verso la realtà. Sì. E poi si può anche sfiorare la verità. Il teatro, per fortuna. Infatti sì. Hanno sempre detestato il teatro, perché il teatro, sì, come dice Peter Brook, qua e là sfiora, sì, la verità, il vero. Scusi, Albertazzi, ma maestro, ma cambierà qualcosa con il nuovo Papa, oppure secondo lei alla fine pochissimo? Non lo so, secondo me no, perché l'istituzione va al di là della persona. È quella che è difficile, sì, capire un Papa che di per sé fa una rivoluzione, quando mai, no, non credo, non lo so. Magari. Cosa dovrebbe fare il nuovo Papa, secondo lei, per rivoluzionare la Chiesa? Che ne so, aprire al matrimonio tra i preti? Ma non è tanto quello il punto, sai? È mantenere fermi alcuni dati fissi di una morale vecchia, stantia, una cattiva interpretazione, sì, di quello che ha detto il Gesù di Nazareth, la confusione fra Gesù e Cristo, tutta questa roba qua, insomma. La pedofilia, che ne so. Non se ne può più, perlomeno io, non è che non se ne può più. Scusi un attimo, ma lei da grande attore teatrale, qual è stato, qual è ancora, uno dei più grandi attori teatrali italiani, ma... E questa vicenda di Giannino, non so se l'ha letta in queste ore, no? Sì. Tutte queste cose inventate, c'era da grande attore, si può dire, no? Da grandissimo attore, o sbaglio? Ma chi era quel? Chi era? Lo so, chi è? Lei non si interessa di queste cose terrene nostre, di queste cose... No, voglio sapere chi è. Oscar Giannino. Come Oscar Giannino, non so chi è. Lo sa chi è, sì. Accidenti, preciso. Ah, e che ne so, magari è così distaccato dal. No, ma che distaccato? È il contrario. Ma ha capito che si è inventato un sacco di roba, sì, le lauree, sì, il master. Si è inventato, sì, vabbè, ma è simpatico comunque. Ma è fantastico, beh, anche questa cosa qui. Non so se lui l'ha fatto per fare il colpo oppure l'ha fatto per, così, per leggerezza. Però comunque è simpatico questa cosa. Beh, da grande attore, no? Da grandissimo. Da attore, sì, ma lui ha delle qualità attorali sicuramente. Vere. C'ha l'occhietto anche pungente, no? Ma da, chi vota oggi Albertazzi? È dura. Vabbè, però ce lo deve fare un coming out. Non lo so, francamente, no, veramente non lo so. Berlusconi? Grillo? Berlusconi? No, non lo so, no, non credo. Non Berlusconi so. No. Ma per chi? Tanto questo voto è provvisorio perché si rivota fra 6 mesi. E vabbè, però lei ci andrà domenica a votare, no? Immagino. Sì, penso. Ci penserò domenica mattina. Grillo? Oppure a caso. A caso, come a caso? La scheda è troppo grossa per votare a caso, Albertazzi. C'è il rischio di fare nulla. Scusi un attimo, ma Grillo è possibile? Le piace Grillo? Sì, è simpatico Grillo. Beh, ma alla fine lei lo vota. Ma il sintomo è importante. Bisogna fare i conti con Grillo. Tutti devono fare i conti con Grillo. Lei vota Grillo, su Albertazzi, diciamolo. Questo mi fa morire dal divertimento, perché all'inizio l'avevo considerato come un fenomeno passeggero, sì, momentaneo, sì, poi dopo piano piano cominciano a averne paura, no? Questo è bellissimo. È stupendo, lei vota Grillo. Sì, è come questi signori della rivoluzione francese, è uscita dal castello, via dal palazzo. Beh, questo è bellissimo. Senta, però a lei piace e dunque domenica lo va a votare. Me lo dica, no, faccia questa confessione, sì. Le zanzare di casa mia si nutrono di me quando il giorno scivola via. Ieri sera Giannino sullo Zecchino d'Oro, perché tutto ormai è in secondo piano rispetto a queste piccole ma importantissime cose. Il nostro amico, il mago Zurlì, è incazzatissimo, non solo per l'invenzione, poi lo sentiremo più avanti, lo risentiremo, caro Parenzo, è incazzatissimo non solo per la questione che uno ha detto di essere andato allo Zecchino d'Oro, di aver partecipato e tutto sotto falso nome, tutte cose inesistenti, ma per queste frasi qui, sentiamo. È vero che non è vero che ha cantato lo Zecchino d'Oro, invece come aveva millantato di fare. Invece ho fatto le selezioni nell'anno di Popoff, così Popo non si può, poi fui scartato per le selezioni. Però è vero il fatto però che aveva detto che però aveva è vero cantato. Il fatto, è vero il fatto, è vero il fatto che bisognava comprare le enciclopedie e che poi andammo all'Antoniano, questo è vero. Quindi lei ricamava un po' sulla base di realtà. Dadaista un pochino. È vero che è incazzatissimo perché dice non è vero che si devono comprare per forza le cose, no? Capirai. Le enciclopedie. Ho capito, ma Mago Zurlì adesso. Il Mago Zurlì diventa ma chi se ne frega del Mago Zurlì? Chi se ne frega? Io penso che se le stupidaggini in politica le dicono tutti, se un tuo avversario politico avesse detto la metà delle cose che sono state dette, che abbiamo sentito, ragiono. Un tuo avversario, avresti fatto l'inferno. Avresti fatto l'inferno. Sul fatto che importanti quotidiani che l'hanno, guarda, lo ha scritto benissimo Francesco Merlo. Oddio, questo Francesco Merlo, cioè, aspetta un attimo, no? Aspetta, abbiamo due. Ha lavorato al Foglio. Togliete l'audio. Ma voli solo tu da me le zanzare. Albertazzi, ma a 90 anni si fa ancora sesso? Ma non so se si fa in generale. Gli uomini, questa cosa di dire si fa, per un attore che fa a 40 anni, si recita ancora, ma che ne so io che ne fanno gli altri? Perché lei lo fa o no? Non sono uguali le persone. No, poi, però... Voi vi siete mai chiesti, non avete domandato che l'età non è uguale? Non ce l'avete dei parenti? Come no? Dei padri, dei nonni, e sono tutti uguali, no? Ma no, non è che uno ha 40 anni è uguale a tutti i quarantenni. No, assolutamente. Uno che ha 40 anni è 3 anni e mezzo. No. E uno che ha 90 ne ha 35. No, ma io lo chiedo perché Berlusconi ha 75-76 anni, sta con una ragazza di 50 anni più giovane, ha capito? Vabbè, questo fa bene, beato lui. Beato lui, Certo, vabbè. Perché no? Certo, no, e che ne so. Vuol dire che ha qualche attrattiva, no? Molti si scandalizzano, maestro. Ma di che? Beh, 50 anni più giovane, quella c'ha 27 anni. Ma chi poteva secondo quale regola? Chi l'ha stabilita? Ma no, nessuno, infatti, molti, non allora. Io non ho detto che mi scandalizzo, io non mi scandalizzo di nulla, allora, per carità. Che significa? Bisogna vedere esteticamente com'è la cosa. Le cose che fanno schifo esteticamente sono quelle che danno fastidio. Ma se va bene, va bene. D'altra parte anche lei, anzi, anche lei stravede. Un bel vecchio con i capelli bianchi, sì, che gli vengono giù ondulati, e vicino a lui una ragazza che sembra la moglie, quella di Tarzan. Sì. Quella di Tarzan, Jane e Tarzan. Beh, metti un Tarzan di 90 anni, anzi 100. Sai che quel regista spagnolo lì, come si chiama? Almodóvar. Che ha 94 anni, no, 104 non so. Anni. No. Allora io ho domandato a un'attrice, sì, che ha lavorato con lui, ma, sì, ma dimmi un po', adesso lui non sta bene effettivamente, ma ha fatto, sì, un film da poco. Io ho domandato, ma com'è lui sul set? Sì. Sta seduto e poi dà di su? No! Lui va lì, fa le inquadrature, sì, dice spostati, vedi qua. 104. 104. Mia nonna è morta a 101 anni, sì, era esattamente... Da 70 in poi è stata sempre uguale, poi è caduta in una buca. Ma lei? Ma lei? Il femore. Lei la madre di mia nonna, sì, è morta a 107 anni. Ah, ma io le auguro una vita lunghissima. Quindi io rompo i coglioni ancora per un po' di tempo. Ah, voglia, senta, voglia. Maestro, come... ma alla fine, per tornare un secondo a Oscar Giannino e usare la metafora teatrale, il grande Oscar non ricorda un po' il full shakespeariano, no? Il personaggio che Shakespeare mette sempre nelle sue opere, quello che è il matto ma che alla fine dice le verità più eclatanti. No, quelli... sì, ma è lì, è il grande, cioè, quello del Lear, per esempio, è formidabile. Io ho fatto il full Lear e poi anche Puck o Puck, come lo volete. Ma chi è più grande nel teatro, nelle commedie? Il grande mentitore? Oscar? Il grande mentitore? Sì, è così un po', ma sì, è così. Senta, ma invece sì, più... però sai, secondo me tutti i grandi politici, sì, mentono raramente, ma come esempio Churchill, per esempio, sembra impossibile. Una volta ho assistito a una seduta a Londra, sì, in cui Churchill e la sua opposizione facevano un dibattito e era pieno di risate. Lui era assolutamente geniale, sembrava Charles Laughton, è un attore formidabile. Di battute. Senta, ma il di più grande attore, a proposito, il più grande attore oggi della politica italiana chi è? Della politica italiana? Beh, di oggi, Berlusconi. Ovviamente bisogna dire che magari i gusti non so se sono per tutti uguali, ma certo lui, Berlusca, è un attore. Beh, è un attore nato. Anzi, credo che lui se la sia presa, perché io ho detto un giorno, è un attore. Sì. Beh, è un attore che ha qualità. È un attore un po', come si potrebbe dire, che ha qualche cosa di amatoriale dentro, ecco. Senta, di amatoriale è quello che fa venire un po'. E poi c'ha qualcosa dentro anche di che? Insomma, voglio dire, è imbottito. Di che dice? Di milioni. Ah, beh, certo, quello. Senta, ma quello che fa venire invece, fa mosciare proprio quello che tutto sembra, tranne un attore che proprio fa annoiare tremendamente, chi è nella politica italiana? Quasi tutti, devo dire. Quasi. Siamo cristiani, tutti erano così. Ma lei vede, ma quelli di oggi, vede Bersani che sta in televisione, che fa? S'annoia o no? No, Bersani è una specie di direttore generale, direttore di quartiere, direttore generale di un'azienda. Direttore, sì. Potrebbe anche dirigere una scuola. Ah, ho una capito. Scuola elementare. Un funzionario, insomma, un funzionario. È un po', sì, un bravo funzionario. Poi Emiliano, insomma, Emiliano lì. C'è questa parla così è quello che nella vecchia nella vecchia definizione dei ruoli nella compagnia teatrale antica si chiamava il generico primario, cioè non è un primo attore, sì, e non è nemmeno un caratterista, però è quello che fa per esempio è quello che fa il re nell'Amleto. Fa Claudio nell'Amleto. Ma uno così può fare il presidente del consiglio, secondo lei? Tutto può essere, tutto può essere. Tutto. Però è una cosa un po' grigia, diciamo, una cosa un po' grigia. Ma no, insomma, non lo so, un amministratore, insomma, se il governo... Un amministratore di condominio, si può dire, come un amministratore di condominio? Ecco, l'amministratore di un condominio un po' grandicello, ma così, insomma, poi secondo me è un bravo uomo. Un bravo uomo. Albertazzi, grazie, buon teatro. Arrivederci. Buon teatro, grazie. Arrivederci. Grazie. Parenzo, ci sei o sei incazzato? No, incazzato ci sono, ma incazzato. Ma certo. Incazzato di che? Se oggi ridevi al telefono, adesso devi fare scena di quello che è arrabbiato. Ridere. Dai, no, su. No, ma posso ridere di questo. Ma che cosa? Dopodiché... O sei belva o te ne vai a quel paese. Adesso riprendiamo in maniera molto più feroce di quanto abbiamo fatto fino adesso. Ma certo che la vita sua è veramente un'odissea. Ma quella storia del cargo liberiano non è vero niente. Ma perché? Perché mi annoio. E allora invento, sogno, divago. No, cari ascoltatori, noi non siamo iene, non siamo belve solamente su Giannino, assolutamente, a parte che non mi piace questa espressione. Comunque, almeno se è una cosa accusatoria. Lega Nord, spese sospette per 19 milioni, soldi anche a figli e infermiera di Bossi. Ecco la mappa completa del tesoro pubblico distribuito dall'ex cassiere del Carroccio, Belzito. Fra una cerchia di 67 persone o società amiche. Il tesoriere si sarebbe appropriato di 1.389.000 euro, inchiesta dell'Espresso, ovviamente tutte cose da verificare. Appunto. Però certo sono cose che fanno incazzare parecchio, no? Appunto, noi siamo qui con Mago Zurli che dice Stai calmo. Che Giannino aggredito un giornalista di Report, domande alla Bindi, la presidente del PD incalzata sui candidati in Calabria, scappa senza dire una parola. Poi il cronista di Report viene intimidito. E c'è da incazzarsi anche qua. Ma senza dubbio. Gravissimo. C'è da incazzarsi anche su questa storia della restituzione dell'IMU, perché senti, o comunque di questo trucco di Berlusconi, no? A parte Ferrara che dice che lui vuole pagare l'IMU perché è giusta, è sacrosanta, ce ne vorrebbero due, tre, eccetera, eccetera. Forte questo Ferrara montiano. No, ma va benissimo tutto. A me un'iniziativa politica al limite che può anche piacere, come cosa così corsara alla Berlusconi. Ma senti la giustificazione della Gelmini ieri sera? Sì, è una roba da mani addosso quasi, no? Senti. Ebbene, Berlusconi ha mandato una lettera, ma tutte queste file di pensionati che sono, mi pare che ve li siete abbastanza, come dire, inventati voi proprio per attaccare una proposta che in realtà è una proposta seria, che ha delle coperture. Se poi qualcuno in particolare è andato presso un patronato a chiedere informazioni, è la dimostrazione dell'interesse. Se qualcuno è andato presso un patronato è la dimostrazione dell'interesse. Ma quale dimostrazione dell'interesse verso un'iniziativa? Uno è andato al patronato perché non ha capito e perché pensa a restituzione dell'IMU, me danno i soldi. Cosa pensa uno? Me danno i soldi, no? Per cui non diciamo cose, è un'iniziativa politica al limite. Al limite della truffa. Ma no, che al limite della truffa? Qui non c'è né da fare denunce, no, né da mettere in mezzo la magistratura. Ma chi dice? È un'iniziativa molto, molto temeraria alla Berlusconi, va benissimo. Non ci rompete le scatole con i commenti. Quelli che fanno la fila è una manifestazione di interesse. No! Quelli che fanno la fila li avete presi per il culo. È una roba alla Totò. Alla Totò. Titoli del TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Montigrillo, pericolo per la stabilità, e sulla Merkel nessuna interferenza. Schäuble con Monti passi avanti. Schulz, non votate Berlusconi. Bersani al TG3, gaffe di Monti sulla Merkel, in Europa i governi si rispettano, la lettera sull'IMU conferma che Berlusconi è un imbroglione. Napolitano smentisce chi ipotizza che possa restare al Quirinale, prematura ogni ipotesi sul nuovo presidente, ma il mio bis è escluso. Alfano contro Monti, sulla Merkel ha fatto una figuraccia, nessuno può farsi interprete dei voleri di altri governi, il nostro partito è tornato unito. La Corte dei Conti oggi, la corruzione in Lombardia peggio di Tangentopoli. Intanto Cremona indaga su presunte firme false per Albertini, che replica saremo inflessibili. Economia infrenata, borse giù, Milano la peggiore, dalla BCE acquisti bot per 103 miliardi, la quota maggiore in Europa. Sì, della conferenza episcopale tedesca, la pillola del giorno dopo nei casi di donne che abbiano subito violenza sessuale. Zanzara! Comunque non c'è niente da fare, signori. A me la vicenda di Giannino mi ricorda moltissimo quella del film Borotalco, eh? Era Borotalco, in cui c'è un protagonista, Manuel Fantoni. Fatemi sentire un altro pezzo, per favore. E così optai per il mare. E così un giorno me ne uscii da casa, me ne andai a Genova e mi imbarcai su un cargo che batteva bandiera liberiana. Che cosa trasportasse quel cargo non l'ho mai capito. In quei due anni ho fatto di tutto. Sono drogato. Insomma, sono stato con le donne, con gli uomini, tutto. La gente che ho visto morire, a profusione proprio. Mi ricordo che per le strade di Bombay si contavano più morti che vivi. Ormai è un'occasione in cui ad Aspen, appena invaso in poche ore prima da parte degli iracheni il Kuwait, eravamo lì a una cosa Aspen col presidente Bush padre e con la Thatcher, sospensione dei lavori dopo poche ore. Eravamo ad Aspen con George Bush padre e la signora Thatcher. Senti Berlusconi su Quinta Colonna. Senti, fammi dire una cosa. Senti Berlusconi. No, ma. No, una cosa intelligente, Pinto. Dimmi, avanti, che non forza. Condividerai avanti. E valuteranno avanti, gli spettatori, sì, gli ascoltatori, se è intelligente o no. Sono quattro righe. Il grandissimo Merlo ha sintetizzato la vicenda. Oddio, che io ma che ieri, sei malato? Ma che hai bisogno di Merlo per dire una cosa? Ma di quello ieri che pensi? Maldestramente ho provato a dire questa cosa. Mamma mia, hai delle fascinazioni. No, lui. Incomprensibile. E cresci, no? Il ragionamento è questo. Lui ha lavorato con autorevolezza per giornali quali Il Foglio, Il Riformista, ma cosa c'entra? Libero, ma cosa diavolo al c'entra? Al Diretto Libero Mercato, al Sole 24 Ore, allora, a Radio 24, allora? Ha fatto lo spin doctor della Marcegaglia. Dunque? È stato consulente apprezzato di enti, vai al sodo, vai al sodo. Tutti questi gli riconoscevano una certa autorevolezza. Allora, se tutte queste persone lo hanno fatto scrivere sapendo che non era autorevole, a tutti questi, a Belpietro, sì, a Sallusti, ecco, a tutti quanti avanti, io vi dico vergogna. Vergogna. Vabbè, hai copiato perché quello che ha detto Merlo e non c'è bisogno. No, ho sviluppato. No, no, ma no, che hai sviluppato, dai. No, no, invece il concetto è molto semplice. Basta, non ho voglia di sentire queste stronzate. Grillo? Un grillo al giorno, un grillo al giorno toglie, ecco, i pensieri radio, di torno. Fatemi radio sentire il grillo, così respiro. Mettiti la parrucca quando lanci queste cose di Grillo. Completa l'opera. Ma non è escluso, guarda, martedì. Mettiti la martedì quando vedrai certi risultati, verrò con la parrucca, lo prometto. Martedì sì, vengo con la parrucca. Mettiti nessuno parrucca, mi vedrà se non è la webcam. Mi metto la parrucca alla Casaleggio. Gli occhialetti. Promesso, facciamola acquistare. E comincia a parlare anche di energie. Tirate fuori i soldi, cominciate, non voi ascoltatori, chi deve sapere che tirate fuori i quattrini perché mi devo comprare una parrucca alla Casaleggio per martedì. E gli occhialetti. Che figata. 20 anni che depistano l'informazione, che fanno articoloni su Sole 24 Ore, sui giovani precari, i giovani senza lavoro, su questi giornali finanziati da noi, dalle tasse, e poi vai a vedere quanto pagano i loro precari, i giornalisti, 5, 6, 10 euro all'articolo. È chiaro che un ragazzo che prende 10 euro all'articolo non va a controllare le fonti dei suoi articoli, fa un articolo, poi lo sbaglia, poi fa un contrarticolo, poi fa una smentita, fa 3 articoli e porta a casa uno stipendio, ed è questa l'informazione. Vai avanti tu. Vabbè, adesso questo magari, ecco, non c'entrava nulla, No, difendilo. Mettiamole un altro. Sei più autorevole di Casaleggio ormai. No, mettiamole un altro. Vi accarezzeremo e prima di mandarvi a fare dei lavori socialmente utili, voi dovrete fare una cosa, se vi sentite. Dovete andarvene finché siete in tempo, democraticamente. Intorno c'è un... Bene, siamo qui, 800-24-0024, Matteo da Prato, buonasera Matteo, vada. Buonasera Cruciani, le volevo fare una domanda. Sì. Senta, volevo chiederle dove le ha offerto Berlusconi il prossimo lavoro, se al Libero o al Giornale. Non ho capito. Volevo chiederle il prossimo lavoro da giornalista, se lo farà al Libero o al Giornale. No, veramente, fino a prova contraria resto qua. No, se poi lei mi vuole offrire un lavoro, va benissimo. Lei sta instaurando una macchina del fango degna del miglior Sallusti. Ma quale macchina del fango? Ma lei non ha capito niente, Matteo. Io mi diverto come un pazzo. Di fronte a queste cose mi diverto come un matto. Ma quale macchina del fango? Ma la smetta, quando insistiamo sui dettagli che riguardano Berlusconi, che riguardano Bersani, riguardano Grillo, va bene. Quando si tocca lei, quando si tocca qualcuno, cioè il punto è questo: spesso nelle reazioni di questi giorni, non c'entra niente Oscar in questo caso, nelle reazioni di questi giorni di molti aderenti che mi hanno scritto, che chiamano anche aderenti a fare, c'è la stessa reazione quando tocchi il leader Massimo Grillo o tocchi Berlusconi per i più accaniti Berlusconi. C'è la stessa identica reazione. Io faccio il mio mestiere, non mi rompete le scatole. Questa trasmissione si chiama La Zanzara, non è Radio Vaticana, non è Radio Maria. Si chiama La Zanzara, rompo le scatole a tutti, secondo la mia sensibilità è evidente. No, lei punto si è comportato come Scilipoti. Ma Scilipoti sarà lei? No, lei si è comportato con tutto Scilipoti, il rispetto di Scilipoti. Ma che c'entra? Ma io non acclamo nessuno. Ma io sottoscrivo tutti i 10 punti di Giannino, ma questo non mi esime dal criticarlo per quello che succede e soprattutto dal raccontare le cose. Ha capito o no questo concetto, questa divisione fondamentale che c'è? L'ha compresa o no? Oppure lei pensa di incasellare le persone? Ma lei, come vabbè, come Scilipoti? La macchina del fango. E vabbè, la macchina del fango, vabbè, ho installato la macchina del fango. Basta fare polemica. Ma quello è fondamentale, sì, quello è fondamentale. Scusi, se voglio fare audience. Quello. Scusi, mi perdoni, se voglio portare ascoltatori. Mi perdoni, sì. Forse commetto un grave delitto per lei. No, no. Ah, no, meno male. Vabbè, arrivederci. Gianluigi, la mia critica. Gianluigi da Verona, ma tu non devi criticare, hai già fatto. Gianluigi da Verona, mi fai ascoltare. Quelli che oggi lo massacrano, ma tu hai letto ma libero? Che vuol dire? Ma che ma vuol dire? Hai letto libero? Ma hai che letto vuol il dire? Giornale? Ma cosa vuol dire? Ma di che stai hai parlando? Hai letto o no? Ma certo che ho letto, ma certo io leggo ogni giorno. Hai letto gli articoli? Sì, hai allora, letto quello che hanno scritto? Allora sì, che lo hanno trattato come Al Capone? Ma hai quale letto? Al Capone? Ma smettila. Hai letto oppure no? Ma smettila. Il problema non è l'amicizia con Oscar, che uno può, che tra l'altro io manco è che posso dire di essere amico di Oscar, tutt'altro, perché lo conosco da molto meno tempo di te, purtroppo. Dico il trattamento che gli hanno riservato. Guarda, è una cosa normale. Manco alla casa di Scaiola. Ma che vuol dire? Ma è una cosa normale. Ma è evidente che c'è anche un interesse politico perché Giannino ha attaccato Zurli. Berlusconi. Il problema è Mago Zurli. Ma adesso. Che c'entra? Mago Bubù e arriverà Vabbè. Fuori un altro che dirà non è mai stato all'Aspen, che non è vero peraltro. È quello che ha scritto e ha detto. Vabbè. Erano oggi Gianluigi da Verona, chi c'era? Erano Marco cose da Pistoia, autorevoli o no quelle che ha scritto e ha detto? La sua carriera era autorevole o no? Ma vabbè, ma o non... ha scritto stupidaggini? Non hai capito nulla. Gianluigi da Verona. No, eccomi qua, buonasera. Dica. Buonasera, ecco, senta, io intanto vi ringrazio perché Giannino me l'avete fatto. Poi io stasera volevo parlare meno di questa cosa. Comunque ormai ci siamo, balliamo, fino a domani balliamo. Dica però, veloce, che devo dare la borsa, su. Ecco, io devo dargli una, però una bugia gliela tolgo, perché anche mia figlia non è andata avanti allo Zecchino d'Oro perché non abbiamo comprato le enciclopedie. Ma figuriamoci. Detto ciò... Guarda che si incazza il Mago Zurlì su questo, No, io lui non l'ho incontrato di persona, però è successo che dopo le selezioni bisogna comprare le enciclopedie e tutto qua. Ma certo che la vita sua è veramente un'odissea, ma quella storia del cargo liberiano, piuttosto la Liberia dov'è, al nord o al sud? Non è vero niente! Ti raccontare un sacco di fregnacce. Ma davvero? Sì. Forse qualcosa di vero c'è. Ieri a quello dell'Eno io gli ho detto che ero proscio. Ma perché? Perché mi annoio. E allora invento, sogno, divago. Avrà vissuto con un bel, che questo con ha provocato. Un bel peso. Ma sa, ripeto, se uno ne fa un uso improprio, lo capisco, però io non l'ho mai fatto. Cioè, c'è anche stato da un certo momento in poi lo sfizio di fottere i professori, se posso dire, che non mi è mai passato per così dire. I professori sono molto succiegosi per fare titoli accademici, no? Invece andare in seminari magari o tenere dei corsi in reti bancarie, eccetera, eccetera, anche con professori, io devo dire che mi divertivo. Quindi molto. Li sfotteva tutti? Li sfottevo, non mancandogli di rispetto. Cioè io vi constatando che non mi mancavano gli argomenti, la preparazione. Siamo qui 800 24 00 24 con Gianluigi da Verona che doveva chiudere. Gianluigi, vada. Eccoci qua, velocemente. Il fatto di queste bugie invece sulla laurea, non so, in qualche modo me lo rendono umano e simpatico, e lo trovo invece dal punto di vista politico, del programma, dell'analisi, dei numeri, molto meno falso di tanti leader. Il professore che poi diventa politico, quello che inventa Equitalia, che poi adesso dice che Equitalia è la fonte di tutti i mali e così via. Bravo. Quindi non lo trovo falso politicamente, lo trovo certamente una persona che ha dei problemi personali. È patetico quello che lei dice, lo sa che è patetico. Bravo. Sì. Può darsi che sia patetico. È patetico, è patetico dire che ma lei fa benissimo. Ma lei fa benissimo, Gianluigi, io non voglio dire che lei non deve votarlo, figuriamoci se mi permetto di dire una cosa di questo tipo. Se lei è convinto di votarlo anche dopo quello che è successo, lei fa benissimo, non bene, benissimo, glielo dico io, non si preoccupi. Il problema è un altro. Mettere a confronto, come fanno molti, le bugie di Berlusconi o dei politici con queste cose qui, è patetico, è un'operazione di benaltrismo ridicola che non ha nessun senso logico, sono due piani completamente diversi. La cosa fondamentale che ripeto per l'ennesima volta dopo due giorni di polemiche è questa: se uno si presenta condannando le bugie del centrodestra, del centrosinistra su 20 anni di storia italiana, poi non si può permettere nemmeno mezza bugia, punto. Ma no, bisogna, ma infatti sono, ma chi bisogna? Ma no, io non sto dicendo quello, anzi, andiamo avanti. Secondo me contestarlo in questo modo, su questo elemento giustissimo, gli rendrà anche notorietà. Ma sì, può darsi, Gianluigi. Grazie. Marco da Pistoia, buonasera Marco. Sì, buonasera Cusciani. Vada. Volevo solo dire una cosa. Credo proprio che sia una gran testa di cazzo, caro Cruciani. Ah, io? Sì. Quello sicuro, lei, ma non c'è dubbio. Lei, sì. Ma lei ha perfettamente ragione. Devo dire che sono d'accordo sul 90% di quello che lei dice. Glielo devo proprio dire. Ma intanto Giannino si è sputtanato clamorosamente da solo, quindi mi sembra anche insomma uno stile un po' così, diciamo, che lascia il tempo che trova. In ogni caso, quello che volevo dire è che lei si erge a quello sopra le parti e che comunque non guarda in faccia a nessuno, quando secondo me se mandasse le interviste che ha fatto a Berlusconi, ma non perché voglio parlare di Berlusconi, ma di chiunque altro, soprattutto di destra, forse perché lei fondamentalmente è una persona di destra, immagino. Io non sono mai stato di destra in vita mia, figuriamoci un po'. E comunque, in sostanza, ma non so nemmeno cosa significa per cui essere di destra, per cui lei vaneggia, però anche quelli che vaneggiano sono interessanti, sono molto interessanti, sono tipologie interessantissime. Mi faccia finire, abbia la cortesia. Volevo solo dirle che secondo me lei sta usando per se stesso questa cosa. Ma quello per la trasmissione, ripeto, non c'è dubbio. Per la trasmissione, questo, non c'è dubbio, certo. Questo è normale. C'è una polemica che dura da 3 giorni e secondo lei io che cosa faccio? Mi metto di lato? Mi metto a fianco? Per quale motivo? Perché qualcuno ha lavorato qua? Perché qualcuno... Per quale motivo mi dovrei mettere di lato rispetto a questa polemica? No, sta usando, secondo me, ovviamente, questa storia, diciamo, in maniera proprio per lodarsi. Per lodarmi. Sì, esattamente, per far sì che diciamo lei si deve ergere, sa che cosa dire lei non sa, lei sta parlando ma non sa cosa dice, questo è il punto fondamentale, vede che non lo sa nemmeno spiegare, cioè perché uno dovrebbe dire lei per quello, ma non lo sa, non spiegare non... come lei, no, ma non è quello il punto, non lo sa spiegare perché non lo sa, questo è il punto, perché se ma sapesse, ma lo dice lei, questo lo sostiene, vabbè, lei posso permettermi di dare la mia opinione su, ma no, lei non ce l'ha l'opinione, questo è il punto con Giannino. Sto dicendo che questa storia la sta montando solo a suo scopo e basta. Ma la stanno montando tutti, ma quale mio scopo? Sarebbe il mio scopo? Quale sarebbe? Io non ho capito ancora quale sarebbe il mio scopo. Ma lo spiega? Così facilmente a una persona sopra le parti. Secondo me se lei mandasse le interviste che ha fatto a Berlusconi o a qualcuno... Ma quale intervista a Berlusconi? Io non l'ho mai intervistato a Berlusconi. Interloquito aveva parlato di lui. Ma guardi, il problema non è quello. Rosetto, guardi, il problema non è quello. Sono due piani, diversi. Sono due cose completamente diverse. Vabbè, allora sono due cose. Sono uguali. Io penso così, mi dispiace. Ringrazio che mi ha fatto esprimere. No, ma la per carità, va benissimo. Caso, ma... Io penso questo, che potrebbe risparmiarsi da questa continua, davvero. Ma ne parlano tutti da 3 giorni e domani è finita la questione. Scusi, abbia pazienza. È una storia fantastica, succosa. È una storia strepitosa. Una storia fatta di tantissimi dettagli particolari. Ma quando mai ha trovato una cosa del genere? Ma si ricorda quel film? Si ricorda quel film con DiCaprio? Quel film con DiCaprio, l'ha visto lei? Qual è? Il film con DiCaprio. Prova a prendermi. L'ha visto o no? Sì, vabbè. No, non l'ho visto, ma il titolo mi dice tutto. Ma è fantastico, caso, è fantastico, è ormai oltre, non, è, non c'è più la questione, non è più ha sbagliato, non ha sbagliato le lauree, è una cosa strepitosa tutto, è tutto strepitoso, è da grande attore, è una cosa che va oltre quasi da, da romanzo, da, da film. Marco, la ringrazio. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte perché affonda il becco. Parenzo, sei rimasto silente? Cosa è, su- no, cosa è successo? Dicendo, sei rimasto intanto, silente, dai. Intanto il film, silente. Stavo dicendo che intanto la scelta del film è sbagliata, perché il film che si addice a questo è semmai Il talento di Mr. Ripley con Matt Damon. Secondo me prova a prendermi, e non è male. Paltrow, è non un è altro male. Film straordinario con Gwyneth Paltrow allora, e Matt Damon. Vogliamo, chiedere, vogliamo chiedere a Corradino Mineo, capolista in Sicilia del Partito Democratico. Sì, adesso glielo chiediamo, ma Bel Pietro e Sallusti, a questo punto, anziché scrivere quello che hanno scritto, che dovrebbero chiedere scusa ai loro lettori, perché se Giannino è quello che loro hanno infamato in questi giorni, ma infamato di... che cosa? Infamato allora, Giannino cosa? Ha commesso errori clamorosi, ma questi signori, l'autorevolezza di Giannino non è mai stata messa in discussione. Ma guarda, questi che nessuno di che hanno diretto quei giornali e l'hanno messo a capo di Libero Mercato hanno più colpe di lui. Allora perché di scusa questi che perché? Oggi gli sparano perché? A palle incatenate solo perché, ma non hai capito, ma sono due piani diversi, solo perché Giannino va contro il Cavaliere. Va bene. No, non va bene. Mineo, come la pensa lei? Ciao trattando. Corradino, come stai? Ciao, bene, volevo dirvi che sono a Paternò, in Sicilia, qui c'è stata una specie di diluvio, i danni sono anche importanti qua a Catania. Ma non smetti mai di fare il cronista, Corradino? Vale la pena, perché è veramente impressionante quello che è successo. Ma ho visto le immagini, una cosa bene, pazzesca. Mi chiedi di Belpietro e no, di... ti chiedo di Giannino. Senti, guarda, io penso che questo vezzo non è a me sconosciuto. Quale? Dei cronisti, di far capire che non sono solo dei cronisti, che sono dei famosi intellettuali e dei professoroni. Sì. Ed è un vezzo italico, però devo dire che il linciaggio no. Bravo. Cioè si deve combattere chi fa un errore, denunciarlo. Bravo. Ma il linciaggio è un'altra cosa. Ma perché stai osservando un linciaggio nei confronti di Giannino? Beh, un po' sì. Ma scusami, però, a 5 giorni dalle elezioni, un personaggio che appare in alcune regioni decisivo, non è che ci siano argomenti fantastici. Decisivo sì, perché è contro il Cavaliere. Ma va bene, ma in questo caso contro il Cavaliere, ma non è che la trappola. I giornali amici che gli hanno fatto scrivere. Scusa, amico mio, ma non l'ha tirata fuori il Cavaliere questa roba qui, l'ha tirata fuori uno del suo movimento. Ma di che parli? Di cosa parli? Io dai, parlo su. Degli articoli che ho letto. Ma gli articoli è normale, tutto. Scusa, però, Corradino, aiutami tu. Ma è normale che gli articoli, che i giornali poi a un certo punto vadano a spulciare, a fare, non mi direte che uno a me non... piacerebbe un po' più di misura. Io sono Bravo. Convinto che la notizia c'è e va data, figurarsi, ma un po' di misura non guasta, perché ripeto, oltretutto non è solo lui, cioè questo vezzo di far tutti i professoroni è molto frequente nella categoria. Sì, però qui, allora... siamo oltre, mi sembra che siamo oltre, dallo Zecchino d'Oro alle lauree, alle cose, è un romanzo, capito? Sta venendo fuori un romanzo, d'altra parte non sarebbe venuto fuori se non si fosse candidato. Libero che si occupa dello Zecchino d'Oro anziché delle case date a sua insaputa, dai, ma di che parliamo? Il mago Zurlì più importante delle balle raccontate in 20 anni di Berlusconi. Ma chi ha detto che è più importante quello o l'altro? Il mago Zurlì. Cioè, fa titolo il mago Zurlì. Ma l'abbiamo tirato fuori noi il mago Zurlì. Mettiamoci d'accordo, siamo tutti un po' mitomani, dai, su. Come siamo tutti froci, Corradino, questa però suona così, siamo tutti un po' mitomani. Beh, oddio, non è vero, sì, è vero. Tutti. No, è vero che ognuno di noi ha una propria dose di balle che racconta, ma su questo non c'è dubbio. Senti un po', ma tu sai, Parenzo, non so se sei informato, perché tu sei poco informato di solito, che il signor Corradino Mineo, che è capolista in Sicilia per il Partito Democratico, come sai, ex direttore di Renews 24, dove adesso siede sul trono assieme a Maggioni. No, saluti tu, io sì, saluto anche, se voglio la saluto in privato, se voglio la saluto in privato. La saluto anch'io. Ecco, la saluti anche lei, signor Mineo. Travaglio, oggi ha attaccato in maniera pesantissima Mineo sul fatto. L'hai letto per caso? No, sì, non lo sai e dici sì, non lo sai, questo è il punto, lo sai o non lo sai? Non mi interessa niente. Gli ha detto che è praticamente colluso con Crisafulli, che lo sai, te lo ricordi, Mirello Crisafulli, abbiamo dato in diretta qui a lui la notizia della sua espulsione. La sua non candidatura. Fu una cosa drammatica. Certo. E insomma è una cosa molto pesante. Signor Mineo, cosa vuole dire a Travaglio? Ma io intanto potrei dire a voi che il mio ego non è mai così... compiuto come oggi, perché l'onore della prima pagina del Fatto e di un editoriale firmato da Marco Travaglio, e questo è vero, non capita tutti i giorni. È vero, per è il vero. Resto, il problema Crisafulli è doppio, è un problema giudiziario. Se i magistrati lo condanneranno, sconterà la sua pena, punto. Però è vero che lei... politico. È vero, scusi Mineo, è vero che lei però prima era contento dell'esclusione. No, no, no. Dopo, in questo convegno dove è stato, ha detto che è un grande politico. No, assolutamente no. Io sono andato... E che c'è stata una campagna strumentale del Fatto. Posso? Sì. Ho accettato il confronto con Crisafulli. C'era un giornalista che ci intervistava e non ci ha risparmiato le domande più scomode davanti sì. al suo popolo, quello sì. che lo aveva acclamato sì. il giorno dopo l'esclusione. Sì. E ho detto che ero e sono d'accordo con la scelta del PD di non candidarlo sì. per due ragioni. Primo, per un principio di precauzione, e, vabbè, d'accordo. E in secondo luogo perché appunto diciamo bisogna essere bisogna fare di più di quello che fanno i magistrati. Per insomma avere le carte in regola. Sì. Dopodiché ho detto, sì. naturalmente sono venuto a vedere di che cosa si tratta. E il dato sì. politico e è che tanta gente ha un rapporto molto forte con Crisafulli. Lo ammira. Lui è un dirigente e si è comportato da dirigente anche quando sì. escluso dalle liste. Ha continuato a fare campagna. Invece di ritirarsi sull'Aventino di sì. cambiare partito, cosa comodissima e anche molto frequente in Sicilia. Sì. Ha chiesto di votare, di far campagna ancora di più per il suo partito. Questo mi ha incuriosito, mi ha cercato di far capire. Di è vero che lei ha detto, è vero che lei ha detto che è un grande dirigente politico, no, un vero dirigente politico. Ho detto che è un dirigente politico, dico, lo si vede dal fatto non che non un grande dirigente politico. No, grande lo avranno aggiunto, ma il problema non è possiamo dire che è grande e grosso Mirello Crisafulli. Quello grosso sicuro, però grosso il sicuro. Punto fondamentale è che obiettivamente lì c'è una città che dialoga con questo signore, i giovani dialogano con questo signore, le persone sì. che hanno bisogno di qualcosa vero, vero. Dialogano con questo signore. Come questo con i democristiani, come con i democristiani. Sì, io gli ho, ma lui non è democristiano. Io gli ho persino detto, l'ho detto davanti a tutti, sì. e mi sono preso anche qualche applauso, che questo diciamo, modo di fare politica... Io ho letto quello che lei ha scritto, sì. Per cui tu sei l'unico, no? Il Deus, la macchina della tua comunità. Non mi piace, non mi convince. Ma questo qua Travaglio l'ha omesso, perché non l'ha scritto allora? Perché non so dove si sia informato. Ma secondo lei mette solo, è un bravo giornalista, mette solo quello che gli conviene negli articoli? Può darsi, poteva informarsi perché il giornalista della Repubblica che sì. ha fatto l'intervista ha anche fatto un resoconto abbastanza veritiero. Naturalmente per il giornalista della Repubblica è più importante, è più curioso, come tu parlavi naturalmente di Giannino, è più curioso Crisafulli che il fesso di Mineo. Ma nonostante questo le posizioni sì. di Mineo le ha riportate onestamente. Però scusi, dunque è più onesto, è più onesto. Un po' una barzelletta. Ah, ecco appunto. Allora voglio dire una cosa, è vero che hai detto che c'è stata una campagna strumentale del Fatto contro Crisafulli, sì o no? No, io ho detto che quando è successa la cosa ho pensato subito che la campagna sugli impresentabili fosse strumentale e comunque ho pensato che fosse indispensabile non candidare Crisafulli. Però o la campagna strumentale o la campagna strumentale. No. Io quando parlavo della strumentalità non dicevo la campagna contro Crisafulli, ma chi è Crisafulli con tutto il rispetto? Dicevo che l'idea non del Fatto, ma del gruppo dirigente del Fatto sì. di partire contro il PD dicendo voi siete come il PDL, peggio del PDL, è strumentale ed era infatti diciamo già e il Fatto ha fatto questo tipo di campagna esplicita sì. con l'intenzione esplicita di andare su Ingroia o meglio ancora su Grillo. Ma allora dirlo, mi piace Grillo, è legittimo, siamo in democrazia, invece tu fai le campagne col finto moralismo per portare la gente dalla tua parte. Ah, ho capito. Dunque Travaglio fa questo tipo di operazioni mentre gli assolutamente sì, cioè ho detto anche che il Fatto è un giornale le cui inchieste mi piacciono moltissimo, che leggo con passione molti cioè articoli, meglio il Fatto di Travaglio, ma assolutamente i commenti sono faziosi e interessati, cioè interessati politicamente, cioè fa il tifo esplicito per qualcuno senza dirlo. No, il problema è muore a Sansone con tutti filistei, mia, l'alfabeto sì. di ritorno e vabbè ritorno ma succede, non ti preoccupare. I filistei, allora, siccome lui è sostanzialmente un uomo di destra, è molto scontento di questa destra, allora deve mangiarsi chiunque. Cioè lui è di destra, fondamentalmente è di destra. Ma sì, ma questa intolleranza è intollerabile, capisci? Cioè lui non sopporta nessuno. Allora, Io penso che l'antimafia si faccia parlando con le persone e a viso aperto. Sì. Non ho bisogno di leggermi i commenti del fatto di cosa sono la cosa peggiore del giornale che c'è. Assolutamente sì, posso aggiungere. Ma si può dire che uno sputa sentenze? Non doveva incontrare il mafioso. Vabbè, ma quello lo sappiamo, l'hai scritto. Non doveva mettersi nelle condizioni di incontrare il mafioso. È vero che era il mafioso a chiedere a Crisafulli e non Crisafulli a chiedere. No, però guarda, io su questa storia sono dalla parte di Crisafulli a spada tratta, gliel'ho detto in faccia, e la sua esclusione è stata una vergogna. Lei non ha il coraggio di dire, secondo me tu, scusami. No, io non penso questo perché è vero che il PD ci poteva pensare prima, ma questo non è un problema mio, io non stavo nel PD. Voglio dire, però, al punto in cui eravamo, va bene, è impossibile candidare un personaggio. Senti, ma quando dici che Travaglio, adesso chiudiamo con la storia di Crisafulli, ma quando dici che Travaglio è uno di destra, significa che è un mezzo fascistoide? No, io ho un grandissimo rispetto per la cultura di destra. Discuto con tutti e non dico del fascistoide a nessuno. C'è per esempio il nostro credo comune amico Buttafuoco, con cui ho discusso con una passione assoluta. Quindi rispetto la destra e mi dispiace che non ci sia. Però quella di Travaglio è una brutta destra. Tu dici una brutta destra. Senti, quella di Travaglio. Tu pensa che di destra erano persone come Mosca e Pareto. Se ne è persa anche la memoria in questo paese. Quindi io rispetto moltissimo la destra. Lui è sicuramente un giornalista di destra con questa tendenza un po' squadristica che non basta battere l'avversario, lo devi proprio distruggere. E questo, vedi, la cartina al tornasole nel pezzo contro di me non era che diceva una cosa che piace al suo pubblico, cioè il teorema Mineo è andato da Crisafulli, quindi Mineo è un venduto. Ma dillo e basta. E che doveva far di più. Allora ho dovuto dire che Radio 24 non esiste. Sì, è vero. Ma usa il giornale come la Manganello. La nostra insaputa. Questo di più, insomma, rivela un livore che non è poi contro la persona, ma anche contro tutti quelli che gli sono stati intorno, che è veramente insopportabile. E meritava una lezione. Ma scusa un attimo, ma usa il giornale come un manganello, gli articoli come dei manganelli quando dice che vuoi distruggere? Lui ha una cultura, non è che lui usa, lui non è capace di limitarsi al conflitto, diciamo, di idee. Vuole picchiare. Lo deve distruggere l'avversario. Lo deve annullare. Cioè una necessità di annullare la persona. È una cosa psicologica, dice. Una cosa psicologica analoga quasi a quella di Belpietro. Mettiamola, siccome mi avete chiamato su Belpietro. Ma no, su tutto, che è su Belpietro. È la stessa cosa. Loro parlano di macchina del fango, ma il meccanismo è uguale. Cioè, l'avversario, io per esempio riconosco a Berlusconi di essere il più grosso, più importante uomo di Stato dopo Mussolini che c'è stato in questo paese. Sì. Secondo me ha fatto un sacco di disastri, ma trattarlo come un comico o come un volgare delinquente non serve a nessuno. Cioè, comunque tu mi stai dicendo che Travaglio è peggio di Berlusconi in alcuni... E dai, non ti ho detto nulla di tutto ciò. No, Travaglio voglio dire... è anche un... scrive benissimo... è un uomo particolarmente intelligente ed è un grande giornalista. Però vuole distruggere le persone, dai. Però ha questa fissazione. Quando punta qualcuno, esatto. è capace di dire con fermezza e durezza la sua, lo deve cancellare. E questo è, diciamo, un comportamento inaccettabile. Bene, 800 24 00 24. Un attimo solo, fermi tutti. Io la combatto. Allora, prima della pubblicità, 800 24 00 24, voglio chiedere a Corradino Mineo, che si è un po' sfogato su Travaglio, una cosa su Cairo. Ma secondo lei è vero o no che la 7 potrebbe diventare, c'è il pericolo che potrebbe diventare, se Cairo l'acquistasse, la quarta rete di Berlusconi? Guarda, sinceramente, quello che mi preoccupa è che Cairo non ha soldi. Allora, siccome bisogna investire in quella grande televisione, il fatto che si dia quella televisione ad uno che si sa che non ha di che investire è di per sé allarmante. Questa cosa di Berlusconi non ti preoccupa, no? Queste cose che non si è dicono. Che mi preoccupa la volontà di Cairo. Voglio dire, hanno ragione Mentana, Santoro, soprattutto loro che sono personaggi straordinariamente noti. Senti, ma tu quando sarai in Parlamento, adesso poi riprendiamo su Cairo, ma siccome il nome di Santoro mi ha fatto venire in mente una cosa, ma ti batterai per riportare Santoro alla RAI? Ah, io penso che la RAI dovrebbe subito fargli una proposta. Santoro è assolutamente il più bravo di noi in quello che fa, nella costruzione di un settimanale, altro che talk show, è proprio bravissimo. zanzara. Cosa ho fatto? Ti ho impaurito, Parenzo? Ti ho impaurito, con questa mia aggressività sulla vicenda Zannino? Sì, no, Zannino, Giannino. Ma che impaurito? Io, come dire, dico quello che penso, poi può essere giusto o sbagliato, ovviamente. Mi fanno incazzare, ti ripeto, quei giornali che ora... Ma tu lo sapevi che Mineo, che è collegato con noi, Corradino Mineo, capolista in Sicilia del PD, sicuro senatore... Ma sai da dove è collegato lui? Da Paternò. Ecco, ma Paternò, va ricordato, è la città che ha dato i Natali alla famiglia La Russa, vero? C'entra il caso. No, non c'entra nulla. Non c'entra, dai, non c'entra nulla. Che cosa c'entra? Ha dato i Natali anche ad altre persone. Non ragazzi, io vi devo lasciare, sapete, perché è una manifestazione che mi attende. Aspetti un attimo. Anche per un solo voto potremmo perdere il premio di maggioranza al Senato. Ma figuriamoci se sarà per il coso, se sarà per il comizio, eccetera. Voto. Ma assolutamente. Ma che stavi dicendo sulla 7? Le preoccupazioni sulla storia di Cairo Berlusconiano, le condividi sì o no? No, ti ho già detto, il problema di Cairo soprattutto sono i quattrini, sono i quattrini. Non mi pare un imprenditore che abbia la disponibilità di investire nel terzo polo televisivo. Da questo punto di vista sono molto preoccupato. Dimmi un attimo una cosa, ma lo faresti il ministro? Dai, no. sì, come no? No. E la commissione di vigilanza Rai ci andresti a fare il presidente? Sì. Ma questo non lo so. Come no? Dove vorresti andare? Senti, ma saresti andato? Io mi sono candidato per occuparmi della Sicilia. Vabbè, voglio anche... organizzare bene una bella lotta alla mafia, voglio organizzare bene... se possibile il allora caso di questa terra. E allora che ci vai a fare la vigilanza Rai? Di no direttamente, no? La vigilanza se c'è bisogno di uno che un po' la Rai la conosce, perché no? Scusa un attimo, ma saresti andato agli studi di Cologno Monzese o dov'era là di Rete 4 per fare l'intervista come ha fatto la Maggioni con Berlusconi? Ma quello non mi pare un problema, guarda, non è quello la questione. Il problema è che dobbiamo tutti quanti cioè ci saresti andato sì o no? Perché non mi rispondi? Io penso di sì. Ci saresti, non è quello il punto. No, non mi sembra una cosa. Ma lei è un po' troppo vicina a Berlusconi, la signora Maggioni. No, non credo. No. Problema. Il problema semmai è che ma tu ti sei dimesso? No, nell'intervista, sai, tu fai il giornalista, quindi lo sai. Nell'intervista Monica ha fatto due cose. Prima si è preparato per farle delle domande sul programma, per essere un po' anglosassone. E poi la seconda cosa che ha fatto è stata seduttiva con il leader. Con Berlusconi. Ora, tutte e due le cose con Berlusconi sono inutili. Con Berlusconi bisogna essere duri, distanti e tenere il proprio punto. È l'unico modo. Vedi, Michele Santoro, che ti ho detto prima è il più bravo, forse io bravo come Michele ne sarei soddisfatto, ha fatto un errore in quella famosa intervista. Ha trattato Berlusconi come se fosse un comico. Gli stava dietro, un po' ammiccava. Berlusconi ha fatto il comico per rivoltargli la frittata. E ha vinto. Ti garantisco che l'unico modo di intervistare Berlusconi è di prepararsi a essere duri e secchi. Dunque ha fatto una brutta intervista alla Maggioni. No, non ha fatto una brutta intervista, però insomma voglio dire, lui ha parlato molto a lungo, il presidente Berlusconi, non si deve e poi fare, si è permesso non si pure deve il fare. Lusso di dire alla fine non la ringrazio, che è stato scortese francamente. Non la ringrazio perché non mi ha fatto parlare, ma ha parlato tutto il tempo. Dimmi la cosa positiva di questa intervista, allora stai dicendo, ha parlato troppo, è stata troppo seduttiva, prima ha fatto una cosa così, è un disastro. Ma lei le domande le ha fatte, capisco che tu vuoi mettere l'uno contro l'altro, io trovo che... La D'Amico ha fatto un'intervista più stringente, per esempio? Ma non l'ho vista quella che ho la sensazione che, comunque, devo dire anche per me, una volta solo l'ho intervistato davvero. È difficile. Intervistare Berlusconi è molto dura. Ti posso dire molto che alla fine sei come Minzolini, comunque vi candidate tutte e due al Senato. Lascia stare Minzolini. Volevo fargli una domanda. Che c'ha la lebbra? No, ma non c'entra in questo caso. Beh, è uguale. Era un grande minzoliniano, poi ha fatto l'errore di farsi sedurre. Tu sei stato sedotto da Bersani, allora come lui è stato sedotto da Berlusconi. Io non sono stato sedotto da Bersani, mio caro, è che Bersani nel momento in cui lui, Bersani, capo del PD, chiama Corradino Mineo con la storia che ha, col passato che ha, ma è uguale, che lui è quella, Berlusconi ha chiamato Minzolini Sicilia, è una tale novità che io accetto. Scusami un attimo, però Corradino, Bersani che chiama Mineo e Berlusconi che chiama Minzolini, ma che differenza c'è? Scusami, tanto la differenza è assoluta, perché non è che Bersani mi ha detto ti mando al TG1. Bersani mi ha detto: vuoi far politica nella tua Sicilia? Tu già c'eri alla RAI. No, ma capisci, è diverso. Vabbè, cioè, sarai entrato in quota Partito Comunista alla RAI o no? Su, no, parliamo... ma neanche per idea. E come io sei entrato? Io sono entrato con quella famosa storia, c'era un democristiano, un socialista e un disoccupato, ero l'unico disoccupato della società. Venivi dal Manifesto, sei stato comunista nel partito. Ero l'unico disoccupato, appunto, tu pensa che era il 1978, esatto, la mia sì. posizione era durissima nei confronti del PC, venendo dal Manifesto e facendo una rivista che si chiamava Praxis, quindi proprio però non al di là ero di, uno al, del PC. Al di là di questo, sì, al di là del PC o no, eccetera. Comunque, vuol dire, Bersani ha chiamato te e Berlusconi al Senato e Berlusconi ha chiamato Minzolini. E, alla fine la gente la legge così, non è che la gente la legge in maniera diversa, ma non è un crimine, eh. Però non è... tu che lo leggi così, cioè le cose sono diverse. Io ho finito di fare la mia attività di giornalista. Cioè tu ti senti più giornalista di Minzolini? No, Minzolini era molto bravo, il problema si è fatto sedurre dal potere. Minzolini quando scriveva era bravissimo. Tu invece sei sempre stato distante dal potere. Io assolutamente sì, questo lo posso dire sicuramente. Non troverete fotografie di Mineo che entra nei palazzi del potere, che va a mangiare con quello e con quell'altro. Vabbè, quello manco Minzolini, manco Minzolini, cioè che c'è? Però vabbè, magari... vabbè, sì, guarda. Ma perché trovi il paragone che faccio con Minzolini, che ti senti, oddio, è un'offesa essere paragonato a Minzolini? Ma assolutamente no, ti ho detto che era un ottimo giornalista. Era, tu dicevi. Però le vicende di ognuno di noi sono singolari, non sono comuni. No, certo, però alla fine vi allora, siete trovati... Io non ho mai avuto un calcio nel sedere per andare a dirigere una testata Rai, anzi negli ultimi 3 anni e mezzo, come sanno tutti, sono stato ostacolato in modo permanente e organico da tutti i direttori generali, da Masi che diceva... Cioè lui è stato raccomandato, no, questo è vero, no? lui è stato raccomandato... Lui che non mi rispondeva, no? Qualunque ho capito, ma quella è la lottizzazione, lui è stato lottizzato dal PDL e tu eri insomma in quota a sinistra, insomma, diciamo no, la verità. Io sono stato lottizzato solo da Sandro Curzi. Da Sandro Curzi. Nel senso che è stato lui che ha convinto il Consiglio di amministrazione, mi ha votato, insomma, Algeri, ma con grande entusiasmo. Chiedi a Malgeri come no, sono ma nominato. Sì, ma lo so, ma ho capito, però ognuno è affezionato alle sue storie, ma certo, no? Cioè... ma c'è un ambito culturale che è quello che è diverso da quello suo, ma che alla fine, insomma, alla fine succede che Bersani ti chiama, non è che Bersani chiama Minzolini, cioè Bersani chiama te come Berlusconi chiama Minzolini per fare il senatore. Posso dirti, Bersani chiama uno che nel 1972 ha detto all'allora segretario del PC Occhetto no? che la loro linea era completamente sbagliata. No, 72 non e era in quel momento tutta la Democrazia Cristiana era mafiosa. Sì. Va bene? Questo è, quindi lui fa un'operazione, diciamo, di apertura culturale analoga e politica, analoga a quella che ha fatto facendo una coalizione con Vendola e con Tabacci. Ho capito, cioè la tua è una grande operazione culturale, quella di Minzolini che cos'è? Una roba di... Quella di Minzolini è... Cioè la tua è una grande operazione culturale. Il principe che si innamora del giornalista e lo mette fino al Senato e poi al Senato. Io voglio fare una liberazione, un comitato di liberazione di Minzolini. Facciamogli scrivere di nuovo gli articoli così ci divertiamo, piuttosto che fargli fare il detto del TG. Ma adesso fa il senatore. Non era cosa, ma no, vuole tornare. Sì, non lo avrà so, voglia. Vuole tornare. No, la politica non gli piace, non è quello il suo ruolo. È un bravissimo scrittore. Ma tu ti sei dimesso alla fine? Ti sei dimesso alla fine da Rai o no? Sì, guarda, stiamo perfezionando questa cosa, ma ti assicuro che io non voglio rimanere con la doppia casacca. Troverei imbarazzo a essere in aspettativa se magari mi capitasse la commissione parlamentare di vigilanza, quindi voglio andare via. Devo avere solo il tempo, subito dopo il voto vado dal mio capo del personale e gli dico che cosa mi aspetta, datemelo, arrivederci. E che farai dopo? E amici come e prima. Che farà il senatore? Nella tua terza vita. Ma che deve fare il senatore? Politica, no, nella sua terza vita, dico. Ma è del 50, vuol dire, per carità, è giovane. Ha detto che si dimette dalla Rai, ha fatto il direttore. E farà politica, farà politica. Politico, e basta, vita. Che deve fare? La terza vita, che deve fare? Nuotatore, che fa? Nuotatore, come Grillo. Nuotatore. Parliamo di cose serie, dai. No, parliamo. Le cose serie sono noiose, è una noia tremenda, le cose serie. Perché, le, perché le cose serie? Perché? Ti vuoi uccidere la trasmissione. Ma tu, per esempio, ma voi accettate un posto di ministri se vince Grillo alle elezioni? Ma perché? Perché siamo grillini noi, non l'ho capito. Ma insomma, cioè, così, una risata vi seppellirà, andate a fare i ministri, no? No, mai. Noi mai. No, ma guarda che la politica... Non siete come Mineo che così... ma la fascinazione per la politica, io la capisco. Un giornalista scadente che va a fare il politico. No, chi l'ha detto? No. Chi l'ha detto il giornalista scadente? No. Sai benissimo che non la penso così. Ragazzi, scusatemi, ma io devo proprio andare, perché... ci sono 200 persone che mi aspettano. Va bene. Vi abbraccio e vi ringrazio tanto. A presto. Ciao Corradino. Ciao. Well, now, little mosquito, there must be. Well, some reason for you that I just can't see. Well, there is. Giuseppe dalla provincia di Napoli. Giuseppe, dica. Sì, buonasera, io vorrei intervenire ancora sul caso Giannino, perché mi dispiace, ma credo che ormai la polemica sia soltanto umana, perché scoprire altri aspetti non porta nulla né alla conoscenza della vicenda né alla conoscenza dell'uomo. Sì, ma porta, scusi, però perché bisogna impedire, per esempio al sottoscritto, ad altri, o comunque criticare il fatto che si portino a conoscenza delle persone dei dettagli in più di questa vicenda? Ma facciamo casino su tutti, cioè, no, scopriamo gli altarini di tutti quando è possibile farlo, ovviamente secondo le nostre sensibilità, secondo le nostre possibilità. Dopodiché, perché non possiamo farlo in questo caso? Ci spiega perché? No, perché io credo che in questo momento è soltanto scoprire una miseria umana che purtroppo si è ingigantita nel corso degli anni, ma non aggiunge, a parte questa ricerca anche penosa del dettaglio in più, della bugia in più, della menzogna in più, non aggiunge niente né al dibattito politico né alla conoscenza della vicenda. Ma io non faccio né dibattito politico né conoscenza delle cose, faccio una trasmissione radiofonica, che è un'altra cosa, non è un dibattito politico questo, è una trasmissione radiofonica, capito? Insomma, ci sposammo. Per un po' fumo anche felice. Solo che lei aveva il vizio di bere. Beveva. Lei e quell'altro amico suo lì. Quello Richard Burton che mi è sempre stato qua. Richard Burton. Faceva una gara a chi beveva di più. Poi una sera Burton mi vomita sulla moquette del salotto. E quella fu la goccia che fece traboccare il vaso. Non ci ho visto più. L'ho preso e l'ho buttato fuori di casa. È meglio lavorare, non voglio discutere con te. Diventare. Per me è un'occasione in cui ad Aspen, appena invaso in poche ore prima da parte degli iracheni del Kuwait, eravamo lì a una cosa Aspen col presidente Bush padre e con la Thatch, sospensione dei lavori dopo poche ore, mentre Bush informava i presenti di quello che era avvenuto, nessuno poteva sapere niente, i satelliti solo avevano registrato l'invasione. Pronunciò alcune parole di circostanza al presidente Bush all'epoca, dicendo naturalmente adesso bisogna mettere in atto tutte le pressioni diplomatiche eccetera. La signora Thatch parlò, sede riservata, questa cosa non è mai uscita sui giornali, per non più di un minuto e mezzo, e con un tono che non dimenticherò mai e che mi fece rabbrividire, perché mai avrei immaginato all'epoca che sarebbe finito alla guerra per liberare il Kuwait contro l'Iraq con una grande coalizione, perché questo sarebbe avvenuto 9 mesi dopo. Lei in un minuto e mezzo disse: il presidente Bush ha ragione, ci vorrà la diplomazia, ma io fin d'ora vi dico, forte della lezione dei nostri padri, ci sarà bisogno dell'unico linguaggio che gente come Saddam Hussein comprende, la forza. Se ci sarà bisogno della forza, io fin da ora vi dico, a nome del mio popolo, ma a nome della tradizione che insieme condividiamo, che bisogna essere pronti a usare anche la forza. Io non me lo dimenticherò mai. Oh, e sembra pure convincente, Pare. Beh, ma magari all'Aspen c'è andato davvero. Non è vero niente. Tu dici? Io non credo. È anche poco importante. Io non credo più a nulla. Cioè, vuoi capire. Ma tu credi a qualcosa ormai? Ma io oggi credo. No, ma in generale, ma mi hai fatto una telefonata oggi in cui evidentemente hai cambiato opinione dopo, in cui tutto divertito, eccetera, dice no, ma è una cosa straordinaria, non si può credere più a nulla. Dalla storia in sé. E allora, basta, divertiti. Perché invece quello che ho detto che non mi scandalizza, ma mi fa orrore. L'hai già detto, benissimo. L'hai già detto. Culturalmente è questo. cioè il linciaggio degli amici che hanno autorevolmente... Ma non è il linciaggio, vabbè, ma è il racconto, vabbè, di quello vabbè che è accaduto. No, ma ti sei dimenticato di fare il cronista? Ti sei dimenticato di raccontare quello che accade? Su. Tra l'importanza che, la zanzara può dare al mago Zurlì e l'importanza che il mago Zurlì riveste in questa vicenda, fattua, è pari al nulla! Al nulla! No, ma, lo vuoi capire? Ma è una cosa no nuova quella che fai, dai peso alle cose, dai peso alle cose, eccetera. Allora dovresti cancellare il 50% delle cose che facciamo. È il nostro mestiere. Il 50%. Diciamo che c'è uno spazio per tutto, noi siamo uno spazio che da fare. E allora mettiti in questo spazio, tira fuori, tira fuori la spada, tira fuori la tua abituale. No, ecco, bravo, l'hai detto, l'hai detto, quando uno ti è vicino, quando uno ti sta accanto. Io vorrei, se ti dico una stronzata, se io ti dico nella mia vita, se io ti racconto una stronzata grave, o se faccio una stronzata grave come quelle di Oscar, io vorrei da te lo stesso trattamento che io sto facendo con Oscar. Uguale, ti prego. Quando la zanzarita tormenta la mia noce, passa in blanco, mañana yo soy stanco come una muchachita. Ma scusa, Berlusconi che dice che Quinta Colonna è un'informazione di sinistra, lo vogliamo sentire o no? Quinta Colonna! Quinta Colonna! Effettivamente ha ragione su questo, è così. Cioè, sì, certo, poi... forse perché c'è il popolo, no? No, cioè... è di sinistra che... No, ma dovete di sinistra. Il Debbio è stato marxista-leninista, non è mai stato di cultura liberale, è un uomo, sì, anche nel vestiario è un uomo di sinistra, non lo vedi tutto vestito trasandato, con l'eschimo, è chiaramente uno di sinistra, Quinta Colonna, cioè, è una quinta colonna, no? Sai chi erano le quinte colonne nell'estrema sinistra? È chiaramente, anche nel titolo, è un programma di potere operaio, quel programma lì, cioè, è chiaro. La televisione, di cui ancora io sono azionista, non ha fatto una sola trasmissione di contrasto alla sinistra e ha, come approfondimento politico, da, credo un mese, un solo spettacolo, che mi sembra si chiami Quinta Colonna, di cui tutti i miei colleghi di partito si sono lamentati perché, seguendo la moda, è piuttosto uno spettacolo che sostiene le formazioni di sinistra. No, ma è serio oppure no? Perché se non è serio. Cioè, secondo te scherzava? Non ci posso credere che seriamente che uno seriamente possa dire una balla di questo tipo, su. Non ci posso credere che uno dice Quinta Colonna è un programma che sostiene le formazioni di sinistra, no? Sarebbe da chiamare il professor Del Debbio per capire da lui cosa ne pensa di questa sortita. No, ma domani mattina è ospite da Milan, domani mattina credo alle 6:30, tutti collegati lì, 6:30, il signor Milan, tutti collegati. E non va a Forum a capire... Economia, a Focus Economia, non va. No, Forum, non Focus. No, Focus. Ah, Economia. Scusami, Focus, non Forum. A Focus, non va. Ma chi, Del Debbio, che ci va a ma fare? Ma perché non mi invita mai a Focus Economia? Ma non faccio il cretino, non faccio il cretino. Ah, a proposito, signor Almirante. Sì, dimmi. No, volevo dare una notizia al signor Almirante. Sì, c'era un nuovo avvistamento? Hanno, sì, hanno trovato il segnalato, ecco, segnalato, la presenza del busto di Almirante nella casa di Branco, quello degli oroscopi. E perché a casa di Branco? Scusa. Casa di Branco. E che ci sta? Perché questo avvistamento? Casa di Branco perché voleva fare un oroscopo al busto di Almirante. Ma di che stiamo parlando? Famiglia. Senti qua, Del Debbio, almeno una volta c'era fede, senti, questo è eccezionale. Ma tu sai che Giannino ha lavorato anche con Almirante? No. Anche col busto di Almirante? No, dai. L'ha fatto lui il busto. Del Debbio. Del Debbio, quello che è venuto fuori dalle piazze è stato qualcosa che mi ha portato numerose critiche dicendo, ma insomma, ma anche Del Debbio, ma anche la vostra televisione, ma anche Mediaset, non ci basta la 7, non ci basta la Rai, anche Mediaset. E quindi mi sembra, non c'è mai stato in Mediaset, una volta almeno c'era Fede che coltivava grande tutte le mie vecchiette e naturalmente esagerando, adesso non c'è neppure lui, quindi veramente Mediaset è una televisione commerciale che non sostiene nessuno. E lei è un orfanello indifeso. Dai su ragazzi, ma di che stiamo parlando? Dai, di cosa stiamo parlando? Almeno una volta c'era Fede, adesso c'è Del Debbio, uno di sinistra, su, ma è l'impazzimento totale. Ma di che stiamo parlando? Ma è peggio questo oppure i file ai patronati come manifestazione di interesse da parte della Gelmini? No, peggio questo, è peggio questo. Beh, questo peggio questo. Ebbene, Berlusconi ha mandato una lettera, ma tutte queste file di pensionati che sono, mi pare che ve li siete abbastanza, come dire, inventati voi proprio per attaccare una proposta che in realtà è una proposta seria, che ha delle coperture. Se poi qualcuno in particolare è andato presso un patronato a chiedere informazioni, è la dimostrazione dell'interesse. Davide da Lodi, 800240024, ancora non è finita, sono le 20:23, abbiamo tantissime cose, sorprese, telefonate a... Restate lì, Davide. Buonasera Cucciani, buonasera Prenzo. Sì, sì, vada. Io che vi seguo tutti i giorni, purtroppo ieri sera ho perso la trasmissione, ma mi hanno riferito che avete parlato con un po' di verità sulla Mooncup, la coppetta mestruale. Cos'è? Di cosa abbiamo parlato? Della... Avete parlato della Mooncup, riferito della a questa... Mooncup, io non mi ricordo di aver parlato della Mooncup. Parliamo della coppetta mestruale. La, la coppetta è quella della, candidata sicura. Bravissimo. Parlamentare grillina nel Lazio, sì. Allora... Bravissimo. No, era giusto perché, non essendo un argomento di politica, la Mooncup, volevo strapparla da questa ilarità di ieri. Strapparla la ilarità di ieri in che senso? Scusi, signor Davide, ma lei che cos'è? Il padrone di questa coppetta mestruale? Chiedo scusa, non mi sono qualificato. Sono l'amministratore, il titolare dell'azienda che distribuisce in Italia questa coppetta, la Mooncup. La bottega della Luna. Ma cos'è la coppetta? Cos'è la coppetta mestruale? Scusi. Forse la più valida alternativa ai tamponi e agli assorbenti. La coppetta mestruale, ma di che stiamo parlando? No, perché la candidata grillina, sì, l'altro giorno ha detto questa è l'aloe che è anticancro, queste, sì, sono le piante da cui si può prendere una sostanza per fare i detersivi naturali e non quelli che, sì, inquinano. E poi ha parlato, sì, della coppetta, ma ce l'abbiamo l'audio della coppetta della signora Daga? No. Ma vabbè, allora Davide, però adesso non è che ci deve fare la marchetta sulla coppetta mestruale. No, io chiedo scusa, io volevo solo dire, volevo togliere questa coppetta dall'argomento politico. No, ma non c'è un altro... Ma non... Un'ottima idea per eliminare i rifiuti, che, al di là della ma ho capito, signor Davide, d'accordo, sì, ma sì, va benissimo, io non stavo contestando l'utilità o meno della coppetta mestruale, abbia pazienza. Era curioso, sì, il fatto che una candidata del Movimento, sì, 5 Stelle al Parlamento italiano, capolista nel Lazio, sicura al 100%, insomma, sì, utilizzasse questo argomento come un argomento politico. Comunque, vabbè. Sì, ne convengo anch'io, anche se sono contento che la utilizzi come vorrei che la utilizzassero in molte. Vabbè. Non per il guadagno, ma per l'idea geniale. No, per il guadagno no, per carità. No, per carità, a lei non interessa il guadagno. Lei ronza un po' di qua, poi ronza un po' di là, e tu lo sai che prima o poi potrà colpire. Beh, Giuliano Ferrara ieri sera su Guido Crosetto, sentiamo. Crosetto è gay, no? Ma come no? Me l'ha detto lui. Ma sì, me l'ha detto quando stava lì al governo. È gay, certo. Ma non è clamorosa, la verità pure è semplice. Ma sai, a volte l'apparenza inganna, eh? Ritornata in me, la rompiballe più rompi che c'è. E la zanzara che arriva ogni estate in città. E la zanzara. Albertini, vieni giù, che sei frocio pure tu. Vogliamo il coming out, vogliamo Parenzo, dillo, vogliamo il coming out, vogliamo il coming out. Dillo anche tu, Crosetto, dillo anche tu, dillo anche tu. Guido? Siete due simpatiche canaglie. No, siete tre simpatiche canaglie, anche Giuliano che dopo aver detto quello mi ha telefonato, rideva come un pazzo. Catenato dicendo ti ho fatto una gara, vabbè, comunque va bene, ci ho guadagnato che ho ricevuto un sacco di proposte di inviti a cena, no, veramente? Uno è stato Parenzo. No, lo dica Parenzo, no, lo dica. No, Parenzo, no. Ma veramente hai ricevuto un sacco di telefonate di, di homosex? Appena l'ho saputo l'ho chiamato. No, ho ricevuto un sacco di messaggi di gente che mi prendeva in giro. No, sì, ma... anche di messaggi di gente che ti ha invitato, dimmelo, questa è la realtà. Non messa... No, ma non c'ho il fisico... però non c'ho il fisico per piacere. Ma secondo me tu invece... Non sono un'icona gay e purtroppo neanche etero. Secondo me, secondo me invece potresti anche diventare un'icona gay, alto, un po'... Però guasta la pancetta. Però la pancetta i pelati tirano. Ma hai fatto, stai facendo la dieta adesso, sei ingrassato di nuovo? No, ma pure di mangiare panini in questo periodo. Quanti chili hai preso? 4-5 in campagna elettorale, un disastro. Sei tornato sopra i 100, no? No, scusa, ero 118, sono a 122. A 122? E come si fa? Ero 154 io. Ma quando 154? Prima di perderne 32, 33, poi dopo altri... certo. Ma siamo nel dramma più totale. Cioè... È più facile far dimagrire... Scusami, è più facile far dimagrire Crosetto o mandarlo al Senato? Visto? Beh, questo è un bel dilemma, sì. È più facile farlo dimagrire. Ah, è più facile farlo dimagrire, eh? Voi sapete, io mi sono scelto la candidatura più difficile, per cui se non faccio almeno il 4-5%, il 5% in Piemonte, non andrò al Senato, ma lo sapevo prima. No, ma non è il 5% in Piemonte, dai, Guido. Sono 4,5%, sì, certo. Però dopo questa vicenda di Ferrara, che tu smentisci ovviamente perché sei eterosessuale convinto, o sbaglio? Sono eterosessuale, sì. Non è che le faccio un vanto, ma sono eterosessuale. No, e poi in questi casi, in questi giorni è meglio non fare... L'ha smentito anche Giuliano, dicendo che mi prendeva in giro. Beh, però sai, le smentite ex post contano poco. Non vorresti mai avere una esperienza omosessuale. No, guarda, non ci ho proprio mai pensata. Non ci hai pensato? Non ti è mai piaciuto un uomo in vita tua? Mai? Non ti ha mai affascinato nessuno? Per questo potrei fare una pazzia. No, mai. Vabbè, ma non è così strano. Giuliano Ferrara sostiene che ognuno di noi... No, non lo dico come vanto, lo dico come constatazione. Mi piacciono le donne una per volta, mi innamoro e rimango innamorato. Come sei tradizionale, mamma mia. A differenza da vostra, che ma forse a differenza libidinosi, corrotti. No, io forse Parenzo, che invece è come te, una per volta, una cosa noiosissimo come me. Non mi molesta il moschito, non mi molesta il moschito, non mi molesta il moschito, ritorno chez toi. Je fais la sieste moustique, arrête un peu ta musique, ne sois pas... Ma certo che la vita sua è veramente un'odissea, ma quella storia del cargo liberiano, piuttosto la Liberia dove è, al nord o al sud? Non è vero niente, t'ho raccontato un sacco di pregnacce. Ma davvero? Sì. Forse qualcosa di vero c'è. Ieri... A quello dell'Enel io gli ho detto che ero froscio. Ma perché? Così. Perché mi annoio. E allora invento, sogno, divago. Retourne chez toi. Tu me vois mélancolique. 800240024, la Zanzara, Parenzo in collegamento da Roma, Guido Crosetto, Fratelli d'Italia, che Giuliano Ferrara ha detto essere omosessuale, lui dice di no, noi però crediamo alla prima versione di Ferrara, vero Parenzo? Ma io vorrei vedere le prove, però per ora, come dire, mi attesto a quello. Senta, si dice. Può dire, Crosetto, si può dire che dopo il video di ieri di quei due simpatici vostri candidati... No, dirigenti, che candidati? No, candidati, dirigenti, non esagerare. Zanon è un autorevole dirigente prima del Movimento Sociale, poi via N, sì. Zanon. Padovano, mi sembra. Conosco benissimo, è stato anche assessore. Ma non è mica un crimine, Non è mica un crimine. No, ho detto, non è che sono due passanti. È no, una... no. Hai detto come fossero due bubù qualunque, ci sono due bubù qualunque, no, è un autorevole dirigente di Alleanza Nazionale in Veneto. Scusi, si può dire che siamo tutti froci? Crosetto? Crosetto? Eccoci, pronto? Dove si trova? Vabbè, Paolo da Bari, su, dai, Paolo da Bari. Paolo? Nicola da Cagliari. Ah, buonasera, Cruciani. Grazie per avermi chiamato, un saluto a Parenzo. Vada. E volevo proprio dire, a proposito di Cruciani e la Meloni, che adesso loro vogliono fare questo siparietto Crosetto per riparare un po' all'irreparabile, perché In effetti loro devono valutare i candidati che chiamano a raccolta per le loro elezioni, perché insomma si comportano un po' come dei topi di fogna, dei fascistoidi con queste idee razionali ancora dietro, omosessualità, gay, insomma non ne possiamo più. Abbiamo bisogno invece di gente che ci aiuti a portare davanti a queste elezioni dei candidati presentabili. Tutto qui. Un saluto. Vabbè, Alessandra da Milano, buonasera. Buonasera. Dica. La sento fare una campagna contro la falsità da qualche sera. Non c'è nessuna campagna contro la falsità. Però l'ho sentito mezz'ora. Questa è la sua interpretazione. Mineo. Questa è la sua interpretazione. Corradino Mineo che ha detto che è stato assunto alla RAI come disoccupato, non come in quota partito comunista, del Partito Comunista, del PDS di allora. Sì. E come sappiamo tutti i disoccupati diventano dirigenti RAI e diventano poi candidati al Senato. Non è che è entrato come dirigente RAI. Lei sta dicendo che le bugie le dicono tutti. Sì, è vero, le bugie le dicono tutti. No, tutti no. Assolutamente. Però lei rispetto a qualcun altro che dice bugie è in ginocchio, rispetto a qualcun altro fa linciato. Vabbè, ha detto la sua stronzata. Ma come lei su... ha precisato è perché Giannino ha scritto questo curriculum, gli hanno scritto in cui non aveva i titoli che erano scritti. Non gli hanno scritto. Ma per giunta, questo è quello che dice lui. Se l'è scritto. Ma per giunta, osava dire delle cose giuste. Giuste secondo lei, ovviamente, anche secondo me. Giuste. Però non è che sono giuste in assoluto. Quindi quello che dice lei è che non è la falsità, è quando uno è falso ma non sta al gioco. Ma di cosa sta parlando Giannino lei? Mi è diventato simpaticissimo. Ma di cosa sta parlando lei? Non ho capito di cosa sta parlando. Primo, anche perché se mi parlo sopra non si preoccupi, io capisco anche se parlo allora, sopra. Allora, lei ha accusato Giannino. Io non ho accusato nessuno. Mi fa parlare? Ma dipende non se voglio. Non tanto dei titoli falsi, quanto... Sì. Che coi titoli falsi facesse delle proposte importanti o delle non accuse. Ho affatto detto questo, guardi, lei non ha capito non mi nulla. Fa parlare, ma lei non ha capito, non mi fa parlare. Ma lei non ha capito. 40 minuti in attesa lei non ha e capito. Altre volte non ha passato. Lei non ha capito. Lei è solo in ginocchio perché vabbè, in ginocchio nei confronti di chi? Ma di chi? Ma di una che cosa schifosa. Ma di che siete parla? Pagati dai soldi pubblici. Ma di che parla? Sole 24 ore siete strapagati con i soldi ma nostri. Ma lei è fuori di testa. Lei non ragiona, lei non sa di cosa sta parlando, lei non sa di che sta parlando. Questi qua, che sono dei simpatizzanti di Giannino, che io ovviamente rispetto, hanno la stessa reazione che hanno spesso i simpatizzanti di Grillo quando uno critica il leader, uguale, hanno preso a modello una persona come se fosse la soluzione di tutti i loro problemi, con la spada sguainata, o lui oppure gli altri sono tutti bugiardi, ladri, eccetera, e siccome tutto si sgretola, ma io lo dico anche con sofferenza, siccome tutto si sgretola, i colpevoli siamo noi che raccontiamo le cose, siamo noi che siamo magari delusi, se uno è deluso, i colpevoli siamo noi e non chi ha raccontato le cazzate, hai capito? Qual è il discorso? Hai capito questo, o no? Sì, ho capito, ma questo è normale che il tifo... meno male. Ma no, ma meno male che ovvio. L'hai capito, meno male che l'hai capito. Ma no, ma che discorso è? L'abbiamo sempre sostenuto, cioè è ovvio che... Tu la pensi come questa signora qua. Come? Renditi conto che la pensi come questa signora che ha chiamato, hai capito? No, ma io ho espresso un giudizio su come viene trattata la storia. Ma chi se ne frega come viene trattata, è un dettaglio. No, ma è chiaro che libera il giornale, ma di che ti stupì? Ma di cosa ti stupisci? Ma io dico, ma sei matto o stai ragionando sul serio? Ti stupisci del fatto che libero il giornale che libera? Ah, ti stupisci di questo? Ma allora sei cretino. Del peso. Sei cretino, vabbè, sei cretino. Alcuni giornali. È ufficialmente sei cretino, sei ufficialmente un cretino. Notizie. Sei ufficialmente un cretino. Stiamo svelando l'uovo di Colombo. Stiamo spiegando Crosetto, l'uovo di Colombo. Le dà del cretino pure lei, se no non mi accontento. Le dà del cretino. Si stupisce del fatto che Libera il giornale trattino la vicenda di Giannino in maniera importante. Una vicenda Crosetto, le dà del cretino? Lo fanno perché c'è la campagna, perché c'è il voto tra due giorni. Ma di che ti stupisci? Appunto. Non ho capito, ma di che ti stupisci? Ma non è che mi stupisco, dico che è una vergogna. Appunto. Ma che vergogna, ma smettila perché con queste categorie. Fino al giorno ma prima, diglielo in faccia ai tuoi colleghi. Diglielo in faccia ai tuoi colleghi di Libero il giornale che state facendo qualcosa di vergognoso. Diglielo, se hai il coraggio. Ma io ho detto diglielo, prima, se hai il coraggio, invece di dire stronzate. Ma io dici delle stronzate, in mani, inaudite. Sallusti e Belpietro con i loro giornali. Che stanno facendo? Stanno avanti. Facendo una campagna. Cosa? Contro ma quale Giannino campagna? Ma quale campagna? Ma l'ha fatta Zingales? Ma l'ha fatta Zingales? Sui loro, l'ha fatta Zingales? Ma che c'entra? Ma che c'entra? Ma tu sei malato di mente? Inaudita, io, è veramente una cosa pazzesca. Guarda. Facendo diventare Mago Merlino l'ennesima balla. Ma se l'ho chiamato io il Mago Azzurri, ma l'abbiamo chiamato noi. E ti divertivi come un matto. E ti divertivi. Giornalisticamente. Ma tu sei un mezzo suicida. Ma tu sei un suicida. Sei pazzo. Giornalisticamente, chi se ne frega che il Mago Azzurri. Ma questo Merlino, lo dici tu. Ma questo lo dici tu. Me ne frega, ma questo lo dici tu. Chi se ne frega. Lo dici tu. Allora vattene da questa trasmissione se pensi che il Mago Azzurri non possa contare nulla. Nulla, via, show! Festival della canzone, sì o no? Non mi toglie vabbè, nulla. Non ti toglie nulla. A chi è Oscar ma Giannino, che cosa? Ma vabbè, ma a te non ti toglie niente. Il fatto che uno abbia detto una cazzata sullo zecchino d'oro, Zurri, per me è importante. Per me è importante, per te no. Se uno compone un quadro, dato che a te ti piacciono sugli altri comporre i quadri. No, sugli altri, quando ti conviene, componi i quadri. Ma quello ha fatto quello. Quello ha fatto quelle cose vere. No, invece queste sono tutte false. Abbiamo tirate fuori noi, adesso rinneghi quello che abbiamo tirato fuori noi. No, ma è tutto vero. Io parlo delle campagne di stampa. Sto dicendo un'altra cosa. Come fai a non capire? Parlo delle campagne di stampa. Ma quale campagne di stampa? Ma è normale che i giornali vadano su questo? Io veramente mi stupisco. Comunque lui è andato, gli hanno riconosciuto valore per quello che diceva. Sei un poveraccio. Posso dire una cosa? Dimmi. Litigate come una coppia vera voi due. Ma noi litighiamo come una coppia vera, ma litigate voi con una coppia di quelli già sposati da 20 anni. No, ma è vero. Litigano davanti a tavola. Ma poverino, se dice stupidaggini. Ma io che dico, se io dico delle cose talmente ovvie che mi stupisco che tu possa pensare il contrario. Ma come al solito devi andare nel politicamente corretto tu. Hai letto stamattina Francesco Merlo e ti sei masturbato. Questa è la realtà. Cioè, ma che linguaggio. Li cacciamo quelli del video? Del video o no, Crosetto? Dalla lista, è tutto oggi che me lo chiedono. Voi sapete che dalla lista nessuno può essere cacciato. No, ma dopo, se entra in Senato con lei questo tizio, glielo auguro naturalmente, questo tizio significa che ha preso un buon risultato anche lei, questo Zanon, che fa in Senato questo qua? Resta o non resta? Ma come lei sa nessuno, e come insegnano... Fosse per lei, fosse per lei. Ma ripeto, hanno chiesto scusa, hanno fatto una gravissima stupidaggine, una cazzata enorme, tanto per dirla. Poi, ripeto, ma non hanno chiesto scusa, lei si sbaglia, non hanno chiesto scusa. No, l'hanno chiesto. L'hanno chiesto. Dice i veri insultati siamo noi, la cosa è strumentale, non si può parlare di sedere, un altro ha detto a Radio Capita. Non mi pare che abbiano chiesto scusa. Se l'hanno fatto in maniera formale, in maniera così, insomma, inutile, insomma. Non hanno chiesto scusa, non mi sembra. Crosetto c'è o non c'è? Ma da dove diavolo parla? Non c'è. Michelangelo da Bari. Buonasera, sono in linea. Sì, è in linea, dica. Allora, due cose rapidissime. Una sulla notizia del giorno, secondo me, e la seconda su Giannino. La notizia del giorno per me sono i poveri anziani inermi, indifesi, poveretti in fila lì per il falso rimborso. È una vergogna incredibile. Sì. In questo mondo siamo tutti un po', diciamo, disincantati, però questa cosa un po' dovrebbe far riflettere. La seconda cosa su Giannino, io mediamente sono d'accordo con le cose che dice Parenzo, stasera sta dicendo una caterva di stronzate, secondo me, perché spiego, sono andato 2 settimane fa al comizio di Giannino qui a Bari, siamo arrivati, io ero bersaniano, poi c'era un renziano, poi c'era un berlusconiano e siamo usciti tutti gianniniani, quindi ora siamo triplamente incazzati per quello che è successo, ma non c'è dubbio. E quindi Parenzo, con cui di solito sono d'accordo, stasera sta dicendo una caterva di sciocchezze e si deve arrendere all'evidenza. Poi umanamente gli possiamo essere anche vicini, però voglio dire, non lo so, il parere autorevole quanto una suola di scarpe. Non è vero, non è vero, è autorevolissimo, invece ti sbagli, è autorevolissimo perché quanto invece quanto me e quanto le mie suole da scarpe. No, è autorevolissimo il parere di Michelangelo per un motivo molto semplice. No, un motivo molto, lo spiego subito, perché ti ha raccontato di una persona che è rimasta affascinata, ti ha raccontato una cosa reale, una cosa vera, come quelle che piacciono a te spesso, di cui ti pulisci la bocca, di cui ti riempi la bocca, scusa. Signor Michelangelo, racconta di essere, giusto Michelangelo, di essere rimasto affascinato da Giannino, giusto? No, ma sarà un problema suo, però ti racconta qualcosa che evidentemente sta succedendo. Non ti interessa, va bene, intanto ascolta, ascolta muto, zitto e muto. Quello che succede nelle urne domenica. No, ma sta dicendo Michelangelo, glielo vuole dire? Poco. Sì, allora, sto spiegando che sono l'innamorato tradito. Esatto. E quindi sono incazzato. Oh, finalmente t'ha dato, in due parole ti ha dato una lezione. Questo è questo il suoi fattacci suoi che a me interessa anche veramente meno di niente. Va bene. Marco da Bologna, grazie Michelangelo, grazie. Marco da Bologna, Marco da Bologna. C'è Crosetto o no? C'è Crosetto o no? Crosetto, ci sei? Sì, vi chiedo scusa, ma sto andando a Cuneo per chiudere la campagna elettorale a Cuneo, sono in macchina. A Cuneo, vedi, fa militare a Cuneo. No, beh, io sono di Cuneo e chiudo la campagna oggi a Cuneo, domani la chiuderò a Roma e in Lombardia, ma stasera la chiudo a Cuneo. Ma si può dire siamo tutti froci rispetto a questa vicenda? Sai come si diceva sull'11 settembre, siamo tutti americani? Assolutamente, anche perché oggi, vedete, ho capito una cosa oggi, mi ha sconvolto. Cioè? Perché se qualcuno, riflettevo oggi, no? Se qualcuno avesse detto a una persona gay, no? Se parlava ieri sera parlando di una persona gay, avesse detto no, io so che quella persona è eterosessuale, no? Quella persona non sarebbe finita da nessuna parte, non sarebbe finita su Dagospia, e di quella persona non avrebbe ricevuto telefonate che dicono ma ha detto una cosa su di te, ma devi reagire, giusto? Sì. Invece il fatto che abbia detto un eterosessuale, sei gay, ha suscitato bella notizia su Dagospia, la gente che ne parla, la gente che mi chiamava e dice ma ha detto quello, devi fare smentire. Io che lo prendo sul ridere, ho detto guardate in realtà com'è il mondo, cioè, ma meglio gay, meglio gay che omofobi? L'ho detto io, questo l'ho scritto io ieri su Twitter, non lo so adesso meglio... sì gliel'ho scritto ieri su Twitter, com'è? Ridendo sulla battuta di scherzare, e com'è? Cioè com'è la storia? Meglio? Non l'ho capita bene. Ho scritto, meglio farsi, meglio che uno ti dica che sei un gay, anche se non è vero, che piuttosto che dica sei un omofobo. Però non è bello, perché sembra che uno dice meglio gay che omofobo, cioè anche essere no, gay. No, ma l'ho fatta, visto che la vicenda tutto ieri è stata omofobia e gay, è battuta su di me. Vabbè, allora di questa cosa, Guido. Era una battuta. Di questo tipo, perché, di un'altra cosa, siamo tutti gay. No, dillo, siamo tutti gay. Siamo, certo. Oggi siamo tutti gay, siamo tutti neri, siamo tutti la minoranza. Siamo come lei, siamo come lei. Bene, io saluto Guido Crosetto intanto, ciao Guido. Oh, ciao, buona serata. Se non vai al Senato che fai? Se non vai al Senato che fai? Torno a lavorare tranquillamente, ogni tanto vengo a rompere le scatole a voi in trasmissione perché mi diverto troppo. Ciao, a presto, ciao. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Alberto da Bologna, buonasera. Buonasera. Vada. Niente, io volevo solamente dire che il mio sarà un voto di protesta per scelta, non a favore né del centrodestra né del centrosinistra. Avevo preso in considerazione di votare per Giannino, sì. Francamente la vostra trasmissione mi ha un po' aperto gli occhi, se deve essere un voto di protesta io probabilmente arrivato a questo punto voterò per il signor Grillo. Cioè lei ha cambiato in queste ore, lei dice grazie alla zanzara, ma io non credo, insomma, complice la zanzara. Sono ancora molto molto molto molto incerto. Ecco, molto incerto. Come molto incerto, però propenso verso Grillo, giusto? Sì, solo per un motivo, perché se ti presenti in un certo modo e devi fare e fai un certo discorso, devi essere coerente al 100%. Non puoi permetterti, cioè se no ti preponi nel solito modo, nel modo con cui ti rimborsano l'IMU, ti dicono non diamo i soldi a questo gruppo. Cioè cos'è che l'ha delusa di più? Cos'è? Ma abbassi la radio però, Alberto, chiuda la radio. Come? Chiuda la radio perché abbiamo il ritorno. No, è spento. Allora? Spento totalmente. Mi ha deluso principalmente il fatto di non essere trasparenti. L'ha delusa la vicenda delle lauree, eccetera, eccetera. Grazie Alberto. Paolo da Bari, veloci. Sì, pronto? Vada. Gianni, sì. No, niente, volevo sempre parlare a proposito di Giannino, no? Ma in particolare volevo un suo parere sul ruolo del grande maestro, del grande professore, del grande docente del grande, come dire, economista professor Gingales, il quale è stato cofondatore di Giannino, no? Sì. Nella formazione di questo movimento. Giannino ha fatto il lavoro sporco, lui è stato dietro le quinte, sì. E poi a poche ore dal voto, va bene, sputtana Giannino, va bene, e creando così un bel casotto, perché voglio dire, non si fanno queste cose, al limite avrebbe dovuto far finta di niente, chiamare Giannino. Guardi, c'è un retroscena su questo, c'è un retroscena, Zingales sarebbe stato allertato, poi bisogna confermarlo, sarebbe stato allertato dall'università perché forse stava per uscire tutto, c'era un giornalista, una giornalista alle calcagna, comunque, che stava facendo un'inchiesta su questa vicenda. Un attimo. Bene, Zanon? Sì. Buonasera, La Zanzara, Radio 24, la disturbo? Pronto? Zanon? Pronto. La Zanzara, come sta, caro Zanon? Carissimo. Carissimi. Che casino, carissimi. Che casino. Ma ha fatto... Bisogna, siamo nel paese dell'oscurantismo, si può scherzare su tutto, ma non si può scherzare su alcune cose. Sul culo, per esempio. Non si può proprio fare questo. Non si può fare, eh. Ma Parenzo, lei lo conosce, che è padovano come lei? Sì, conoscete? Una persona che stimo da sempre, lo seguo. Senta, guardi, io all'inizio ero molto critico, devo dire, su questa cosa, forse non era necessaria. Però dopo ho pensato, vabbè, insomma, sì, una cosa omofoba, è vero, leggermente... Ma lei alla fine ha chiesto scusa o no, Zanon? Ho detto, guarda, allora, tutte le persone che mi hanno contattato, c'è stata... Devo dire, sono stato, ovviamente ci sono i positivi e quelli che ovviamente giustamente mi hanno... Ecco, ma sono più quelli che l'hanno hanno apprezzato questa cosa o quelli che l'hanno insultata? No, devo dire che ovviamente a me si rivolgono quelli che dicono... Hai fatto bene. In cui non c'è coraggio, in un mondo in cui non c'è nessuno che è capace di assumere le posizioni, tu l'hai fatto anche con ironia, quindi, però non ho capito lo spirito... ironico che era la base un po' della mia ma lei alla fine ha chiesto scusa, sì o no? Nato, No, però ha chiesto scusa lei alla fine. Chi mi conosce Davide Parenzo, che mi conosce, sa che io non sono né intollerante né omofobo, e tantomeno ho pregiudizi. Però voglio dire, lei ha intenzione di chiedere scusa per questa cosa oppure no? Io questo non capisco. No, io ho già chiesto non riesce a dire scusa. Come? Non riesce a dire scusa fino in fondo. Zanon, facciamo una cosa, devo chiudere, ci sentiamo domani con tranquillità, così lei ci riflette sopra. Domani ci sentiamo con tranquillità, un orario che fisseremo. Domani parleremo di nuovo di questa vicenda con uno dei protagonisti. A domani 18:30, ciao David. Posso dire una cosa? Litigate come una coppia vera voi due, litigate voi con una coppia di quelli, sei sposati da 20 anni, che litigano davanti a tavola, e tanto nessuno dei due cambia idea. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, so, alle 8, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente La Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. A presto. Un bacio, dove ciao. Vuoi. Ciao.